coincide con quella seconda rivoluzione industriale che, a differenza della prima, compiutasi tra l'8 e il 900, ha segnato realmente l'ingresso dell'Italia nella fascia dei maggiori paesi industriali. Che questa trasformazione sia avvenuta in una linea di continuità con i caratteri fondamentali della prima industrializzazione, ovvero attraverso una sensibile modifica del quadro politico-economico complessivo, non è un problema su cui soffermarsi a lungo. Lo sviluppo industriale del decennio 1950-60 è certamente un fatto di continuità rispetto alla prima industrializzazione, se si considerano i fattori di localizzazione dei settori trainanti, le sedi decisionali delle maggiori scelte imprenditoriali, la composizione sociologica prevalente nel management, il superiore dinamismo tecnologico e produttivo di comparti e aziende appartenenti all'area economica più matura del Paese. Ma è pur vero che esistono profonde linee di rottura tra i due fenomeni, tra cui principale è il maturare della seconda industrializzazione italiana in una cornice di competitività e di crescente integrazione col mercato esterno, europeo, americano, mondiale, in virtù degli stimoli indotti dalla una politica economica liberalizzatrice, ossia di segno esattamente opposto a quella che presiedette al primo sviluppo industriale dell'Italia. Elemento questo generalmente noto anche a quanti non si occupano di tali problemi, ma che difficilmente è dato di ritrovare con chiarezza nella maggior parte dei lavori finora dedicati alla politica economica della ricostruzione del centrismo, più inclini a ritenere l'indirizzo liberistico che ne fu alla base come il frutto di antiquate dottrine di un gruppo di economisti capeggiato da Luigi Einaudi e ben sostenuto dai convergenti interessi del grande capitale industriale finanziario privato. In questa prospettiva non stupisce dunque che la politica economica allora attuata venga considerata anche nei suoi faticosi e contraddittori esiti congiunturali come un compiuto e lucido modello di restaurazione capitalista contro lo spirito rivoluzionario della resistenza agevolata dalla debolezza o dall'assenza di organici indirizzi economici alternativi della sinistra. La restaurazione capitalista sarebbe iniziata già col declino dei CLN di azienda e del controllo operaio sulle industrie mediante il progressivo svuotamento di ogni potere dei consigli di gestione, per compiersi poi con i provvedimenti antinflazionistici del 47 e per consolidarsi infine con il definitivo realignment dell'economia italiana nel sistema capitalistico in virtù del piano Marshall e della crescente integrazione nel mercato occidentale ulteriormente stimolata dalla riforma doganale del 51. Troppo piano forse? È troppo piano? No, va bene. Ne va trascurato che questa interpretazione, apparsa plausibile sull'onda delle recenti discussioni intorno alla reale natura di partito rivoluzionario del PC e al ruolo storico svolto dalla sua lunga egemonia sulla sinistra politica e di classe, coinvolge in un'aperta condanna la linea seguita dal PC nel secondo dopoguerra, in particolare la leadership togliattiana, considerata pronuba e insieme vittima di questa restaurazione capitalistica. Sicché tale espressione, adoperata inizialmente proprio da Togliatti che l'attribuiva all'opera di De Gasperi, e ripresa di recente ed allargata oltre ogni misura significativa da Antonio Gambino, sembra oggi essersi rivolta con il suo originario senso negativo e polemico contro il suo stesso autore. Ora, il concetto di restaurazione capitalista appartiene al novero di quelle espressioni che, trasferite dall'ambito dell'attualità politica e del corrente gergo ideologico a quello storiografico, cessano dall'avere qualsiasi concreta valenza interpretativa. E gli storici sanno fin troppo bene, basti pensare alle lunghe discussioni provocate dall'uso di analoghi termini generalizzanti, rifeudalizzazione, rivoluzione agraria mancata e via dicendo, quali fatiche siano necessarie per liberare poi la realtà storica da cotali involucri che non di rado la ricoprono fino a soffocarla. A parte l'improprietà del generale concetto di restaurazione, bisogna dire che esso, anche nell'uso specifico che se ne è fatto, tende ad ignorare il concreto significato storico di quella scelta neoliberista, allora compiuta, trascurando di valutare che mediante tale scelta la struttura produttiva italiana venne privata, in realtà, di quel tipo di tutela politico-economica che a lungo ne aveva garantito l'esistenza. Con la politica neoliberista, infatti, prevalse per la prima volta nella nostra storia di paese industriale l'altra filosofia dello sviluppo economico, quella cioè che sin dalla prima industrializzazione aveva animato costantemente l'impegno culturale e politico di coloro che affidavano le sorti dell'intero progresso economico del paese all'espandersi delle effettive capacità della libera iniziativa e alla positiva affermazione delle attività produttive più moderne e meglio condotte su quelle più arretrate o mal guidate. Nel secondo dopoguerra, dunque, la linea liberista, dopo circa 60 anni dalla tariffa protezionistica dell'87, abbandonò finalmente il terreno di una nobile ma minoritaria battaglia riformatrice per divenire il criterio ispiratore della politica economica italiana. Certo, le gravissime condizioni in cui versava l'economia italiana del tempo impegnarono duramente e per più aspetti logorarono perfino questo indirizzo di politica economica in una serie di misure congiunturali dove blande, dove contraddittorie e talvolta tardive o addirittura inadeguate, da cui deriva l'evidente assenza di un organico indirizzo di politica economica nel periodo intercorso tra la crisi del governo Parri e le misure antinflazionistiche del 47. Ciò non toglie però che la linea liberista allora intrapresa si stacchi dagli indirizzi fino allora invalsi nella storia economica e politica dell'Italia, cosa che sfugge del tutto al concetto di restaurazione capitalistica. Né per altri versi l'intera politica economica di quegli anni riceve un'adeguata spiegazione storica se presentata come frutto eminente di una egemonia liberista, volendo con ciò intendere il prevalere e quasi il prevaricare sulla realtà oggettiva di antiquati dogmi antistatalisti imposti al paese da un gruppo di economisti manchesteriani grazie alle rilevanti posizioni individuali da questi raggiunte nel campo accademico e pubblicistico e alla grande efficacia espositiva con cui seppero diffondere le loro idee. Opinione che, privilegiando oltre misura fattori così personali e peculiarità affatto soggettive, rischia davvero di spiegare la storia col naso di Cleopatra. Ma pur nella diversità delle valutazioni generali e degli approcci specifici che si riscontra negli studi recenti sui problemi economici degli anni dei Gasperiani, comune è la tendenza a schematizzarli in una rigida contrapposizione tra liberisti e statalisti, risoltasi con la vittoria dei primi anche perché le forze progressiste non furono capaci, cito un giudizio non mio, di trovare una politica economica che fosse sostitutiva di quella che fu attuata e che la reazione sicuramente sostenne. Giudizio che del Barucci, questo giudizio. Giudizio questo esemplare del modo unilaterale con cui la politica economica del tempo è stata considerata. A riguardo, la critica principale che si è mossa alla linea neoliberista si basa soprattutto sulla netta avversione concepita verso qualsiasi intervento dello Stato nella vita produttiva, in nome della intangibilità dei naturali meccanismi economici e della spontanea autoregolamentazione del mercato. E ciò, dopo la crisi del 29, il successivo delinearsi dell'intervento pubblico nel sostegno della produzione e dei consumi interni, e lo stesso volgersi, dopo la fine della guerra, di alcuni paesi capitalistici di antica tradizione liberista, come la Francia e l'Inghilterra, a moderne esperienze statalistiche con i piani Monnet e Beveridge, è sembrato testimoniare un'astratta tendenza dei liberisti italiani a rinchiudersi nell'antistorica e ormai logora utopia dell'SFR. In realtà, questo carattere antistatalistico non scaturiva soltanto da eroici furori dottrinari, oppure da oggettive o volute collusioni con i più retrivi interessi economici che invece saranno sempre ostili alla linea liberista. sebbene dalla conoscenza concreta che i liberisti avevano dei caratteri fondamentali assunti dal capitalismo italiano nel lungo periodo precedente la disastrosa conclusione del conflitto. L'intervento dello Stato, infatti, non aveva caratterizzato solo l'indirizzo autarchico corporativo del fascismo, ma risaliva alle dirette e per quegli anni nemmeno tanto remote origini del nostro moderno capitalismo finanziario industriale. Protezionismo doganale, mobilizzo delle risorse finanziarie interne per il sostegno di industrie non compatibili con la vocazione produttiva del Paese a scapito di altre suscettibili di maggior progresso, tutela del latifondo e abbandono dell'agricoltura alla propria tradizionale arretratezza, dominio crescente dell'intera economia italiana di ristretti interessi finanziari col conseguente diffondersi di una estesa rete di posizioni monopolistiche e di privilegi fiscali. Erano questi gli effetti principali che i liberisti consideravano nel giudicare il ruolo dell'intervento dello Stato nella vita economica nazionale, insieme ad altri fattori negativi maturati sul terreno politico e sociale. Questione meridionale, immigrazione, illeciti collusioni tra capitale privato e pubblici poteri, sorge di un bellicoso nazionalismo e di fermenti liberali di ogni tipo. In definitiva, per i liberisti del secondo dopoguerra, il ripudio dello statalismo non si giustificava solo con lo smantellamento della maglia autarchico-corporativa del fascismo, ma comportava anche il cambiamento della tradizionale struttura del capitalismo italiano mediante la drastica riduzione di quella fisionomia statalistica, la cui tutela dei grandi gruppi finanziari privati aveva avuto parte non secondaria negli squilibri e nelle inefficienze accompagnatesi alla trasformazione capitalistica del Paese. Più che antiquato o astratta, il limite di tale visione era semmai nell'essere fin troppo concreta e circoscritta alla sola esperienza italiana, da cui derivava questa immagine così patologica del ruolo svolto dallo Stato nel determinare quelle che nel secondo dopoguerra apparivano ai liberisti come gravi ed ancora irrisolte insufficienze del nostro sviluppo capitalistico. Ma pur con tale limite, la scelta liberista si collegava direttamente ad una linea politica ed economica riformatrice, maturata in una chiave di forte critica al gioco degli interessi finanziari ed industriali fino allora prevalso sotto l'ala tutrice dell'interventismo statale. D'altra parte, anche in relazione ad una più attenta riflessione sui motivi economici dell'intervento fascista nell'avventura bellica, la scelta liberista testimoniava compiutamente i nuovi orientamenti della classe dirigente post-fascista, convinta che il progresso economico dell'Italia dovesse attuarsi con il ripristino della libertà di mercato, anche con una crescente integrazione degli scambi, una pacifica cooperazione tra i popoli e insieme col rifiuto di ogni politica economica aggressiva e nazionalistica, che non erano solo aspirazioni maturate dalla rinnovata coscienza europeistica dei politici ed intellettuali, ma rispondevano anche ai convincimenti dei più illuminati esponenti della borghesia produttiva e alle stesse concrete esigenze delle maggiori imprese industriali, i cui dirigenti convenivano anch'essi nel ritenere conclusa l'epoca del mercato protetto e dell'intervento tutelare dello Stato nella dinamica del meccanismo di accumulazione. Al riguardo, le risposte degli industriali italiani nel 1946 alla Commissione Economica della Costituente non lasciano dubbi sul loro intendimento di porre la scelta liberista non alla base, come si è voluto interpretare con palese forzatura, di posizioni miope o reazionarie, bensì al centro di un mutamento dei rapporti politico-economici fino allora intercorsi tra l'industria privata e lo Stato. Io sorvolo, ve lo riassumo, proseguendo io dimostro come in realtà all'interno dell'indirizzo liberista sorgano le forme più moderne di revisione della politica economica dell'età degasperiana in senso statalista. Non c'è quindi questa contrapposizione che è assai invalsa nella letteratura recente, appunto, fra statalisti e liberisti come due filoni nettamente separati, E non solo, e addirittura questa ulteriore aggiunta, cioè poi i liberisti si identificano con la conservazione, la reazione, come avete sentito prima, mentre gli statalisti si identificano con il progresso. Tutto ciò è schematico, tutto ciò non è vero, perché forze reazionarie e conservatrici erano presenti sia tra gli liberisti sia tra gli statalisti. Forze progressive erano presenti sia fra gli uni che fra gli altri. Non è possibile separare. E resta comunque fondamentale il fatto che dalla politica economica liberista non nasce un indebolimento dei poteri di intervento dello Stato. Al contrario, alla fine dell'esperienza liberista, lo Stato italiano ha acquisito un potere notevole nella vita economica del Paese. Quindi dal liberismo non viene fuori un'attenuazione, al contrario, viene fuori un rafforzamento del potere statale, il che dimostra ulteriormente come non sia possibile giudicare queste due opposte tendenze, appunto dividendole in modo così schematico. Forse faccio qui la traduzione delle cose che ha detto, perché noi adesso lei comincia col mezzogiorno. No, vorrei dire ancora qualche altra cosa prima di passare al mezzogiorno. Posso tradurre le cose, perché mi sembra che sia piena di... A riprova di questo fatto che io ho detto, c'è una relazione di Vanoni. Vanoni è un padre nobile del neostatalismo italiano. È una relazione del 48, del marzo 48, importante anche perché è uno dei pochi, almeno a mia conoscenza, uno dei pochi documenti che noi possediamo in cui il piano Marshall viene giudicato non come lo si giudicò allora, cioè guardandolo soprattutto in relazione alla politica estera italiana e alla collocazione internazionale dell'Italia. E quindi ci fu, come voi sapete, un dibattito politico nella campagna elettorale del 48 molto violento, per cui chi voleva il piano Marshall era in realtà un venduto alla potenza americana, eccetera eccetera. Quindi questo dibattito politico sul piano Marshall attenuò gli aspetti propriamente economici. Uno dei pochi che invece dettero una lettura direi corretta e importante del piano Marshall è appunto Vanoni, in una relazione sui problemi del commercio estero italiano, pubblicata recentemente proprio dal Barucci, dal collega Barucci, in un volume che raccoglie gli scritti economici di Vanoni, edito dalla Lemonnier di Firenze. E in questa relazione del 48, ripeto, Vanoni individua con molta chiarezza i fattori propulsivi, i fattori di progresso contenuti nella linea liberista. È direi proprio un'analisi direi abbastanza articolata, oltretutto anche storicamente ricca, perché Vanoni comincia a esaminare serie di rapporti, di relazioni, dati, di scambio, eccetera, che rimontano addirittura al 1880, è una grossa relazione. Ecco, e alla fine, nei giudizi più propriamente politici economici, Vanoni sostiene appunto che la linea liberista è in realtà una linea di progresso, una linea di sviluppo, non è una linea di regresso. Ora, il fatto che Vanoni, autore del noto schema Vanoni, cioè il fatto che uno dei padri nobili dello statalismo, del neostatalismo italiano, sia invece uno un liberista in definitiva da questo punto di vista, dimostra ulteriormente come non sia possibile contrapporre, come invece si cerca di fare, o è stato fatto finora, liberismo e statalismo nello schema che io poc'anzi vi ho detto. Forse è meglio che faccia la traduzione adesso. Ich will versuchen, das, was Herr Aliberti gesagt hat, kurz zusammenzufassen, weil ich den Eindruck habe, dass dies das Allgemeine ist. Wobei Ihnen sofort klar werden wird, dass ich nicht die Qualitäten von Herrn Lill besitze. Herr Aliberti beginnt mit der aktuellen zeitgeschichtlichen Diskussion. Es gibt viele Memoiren. zeitgenössische nationalökonomische Schriften über Grundfragen des, der Wirtschaft, der, der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems und der staatlichen Wirtschaftspolitik der späten Kriegs- und Nachkriegszeit. Er hat noch einmal daran erinnert, dass die zeitgeschichtliche Erforschung der Ära de Gasperi fast in stärkstem Maße unter ideologischem Aspekt, unter prinzipiellen Auseinandersetzungen von heute erfolgt, wobei die Gefahr der Aktualisierung, die Verschränkung mit dem, was heute aktuell ist, sehr groß sei und erinnerte dann daran, das sei aber nicht etwas Besonderes der zeitgeschichtlichen Beschäftigung mit der italienischen Nachkriegszeit in der italienischen Risorgimento-Forschung, also der Erforschung der Einheitsbewegung, der Bildung des italienischen Nationalstaates, gibt es genau das Gleiche. Es sind Dinge, die uns vielleicht eher aus der englischen Geschichte mit der Weak Interpretation of History bekannt sind. Ihm kommt es darauf, andererseits betont er, dass die Ära de Gasperi in sich so viel zusammenhängende Probleme hat, dass sie sich schon historisch ausreichend von dem Vorher und dem Nachher abhebt, sodass diese ein vernünftiges, ein sinnvolles Studienobjekt, um mit Toynbee zu sprechen, sein könnte. Das Zweite noch. Italien hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite industrielle Revolution erlebt und ist dadurch in der Weltwirtschaft eines der industriellen Hauptländer geworden, wobei in den 50er und 60er Jahren die Kontinuität dieser Nachkriegswirtschaft, italienischen Nachkriegswirtschaft, mit der ersten Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert betont worden ist. Andererseits liegt Herrn Aliberti daran, an die Unterschiede zu erinnern, die vor allem darin bestehen, dass Italien bis zum Ersten Weltkrieg in viel stärkerem Maße eine mehr oder minder geschlossene Volkswirtschaft ist, während das Italien der Nachkriegszeit ein Teil der Weltwirtschaft ist, dass es sich also unter ganz anderen wirtschaftlichen Bedingungen entwickelt hat. Und von daher sagt er, wie es häufig jetzt unter aktuellen wirtschaftspolitischen oder parteipolitischen oder wirtschaftsphilosophischen oder soziologischen Gruppierungen geschieht, das Modell der kapitalistischen Restauration auf der einen Seite gegen die verhinderte, in der Resistenza angestrebte, aber dann verhinderte Innovation und den Fortschritt des Neuen, so einfach seien die Dinge nicht, einfach nicht gewesen. Togliatti sei auch wirtschaftlich nicht ein Opfer de Gasperis geworden. Er hat hier einen vor drei, vier Jahren, glaube ich, erschienenes Buch von Gambino erinnert, von der Befreiung bis zur Machtergreifung der Demokratia Christiana, und sagt dann, wir müssen in der Forschung, wenn wir überhaupt weiterkommen, viel mehr weg von den prinzipiellen Dingen und viel stärker überhaupt die Fakten aufarbeiten, die wirtschaftlichen Tatsachen aufarbeiten, die uns ein Urteil ermöglichen. Wobei wichtig ist, dass es gibt in Italien zwei wirtschaftspolitische Schulen, die Liberalen, die Liberalisti und die Statalisti. In Deutschland hat das nicht direkte Entsprechungen, wobei er aber nun mit einer Reihe von Beispielen erläutert, dass gerade die ursprünglichen Unterschiede zwischen diesen Konzeptionen, die, wenn man sie in ihre ersten Anfänge zurückführt, einmal mit dem einen Extrem vielleicht von Manchester-Liberalismus und dem anderen Extrem von dem Staat, Interventionsstaat, der alles tun wird, bezeichnen könnte, dass sie sich in Praxi in der aktuellen Diskussion, in den aktuellen wirtschaftspolitischen Entscheidungen der De Gasperi-Zeit ganz miteinander verschränkt haben. So wie schon die Liberalen nach 1945, der bedeutendste war Luigi Einaudi, der dann auch eine Zeit lang italienischer Staatspräsident gewesen ist, nicht nur freie Marktwirtschaft und freies Laufenlassen der Großindustrie wollten, so sind auch die Statalisti und Iada, also den Protagonisten Vanoni genannt, keineswegs so, dass sie immer nur von Staatseinfluss sprechen. Für die deutschen Teilnehmer möchte ich hinzufügen, dass ja schon vor der faschistischen Ära und in der faschistischen Ära in Italien in viel stärkerem Maße als in Preußen, etwa durch die staatlichen Wirtschaftsunternehmungen des Staates in Preußen oder teilweise in Bayern, hier der Staat Teil der Wirtschaft ist, indem er Gesellschaften gründet, die dann wie andere große kapitalistische Unternehmungen wirken. Das ist also eine längere Tradition und es geht nach seiner Darstellung, wenn ich ihn richtig verstanden habe, in der Diskussion der De Gasperi-Zeit nicht darum, das eine oder das andere Prinzip als Prinzip zur Geltung zu bringen, sondern es geht darum, von diesen modellhaften Vorstellungen unter Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaftlichen und außenpolitischen Situation das für die italienische Wirtschaft jeweils optimale, die optimalen Produktions- und Absatzbedingungen herauszuarbeiten, wobei selbstverständlich der Marshallplan ein deutliches Zeichen ist, wie Außenpolitik und Wirtschaftspolitik sich ganz eng miteinander verschränken und wie das eine das andere bedingen soll und auch bedingen muss. Und hier noch einmal, es ist Vanoni, der in einem Vortrag, der kürzlich veröffentlicht worden ist, in einem sehr wichtigen Vortrag Vorschläge gemacht hat. Vanoni, das Haupt der Statalisti, wenn man der Gruppierung in Schubladen folgen würde, wie er Vorschläge macht, die ganz auf der Linie der Liberalisti liegen, bis hin dann zu der Aufhebung, also zu, nicht Aufhebung der Zollschranken, aber der wesentlichen Minderung der Zollschranken ab 1886, war Italien durch Zölle sehr stark vom Außenhandel abgegrenzt. 1952 öffnet es sich der Weltwirtschaft und bekommt daher bessere Bedingungen für den Absatz seiner Produkte außerhalb Italiens. La ricostituzione delle basi monetarie del meccanismo di accumulazione, conseguita con la linea Einaudi, fu dunque la premessa necessaria della successiva revisione della politica economica sfociata nel pieno dell'età De Gasperiana nella riorganizzazione e nell'ampliamento della sfera di azione dell'IRI, nella ristrutturazione funzionale dell'ISVEIMER, nella istituzione dell'ENI, della Cassa del Mezzogiorno e degli enti di riforma fondiaria, provvedimenti che segnarono una marcata svolta neostatalistica dell'economia italiana anche rispetto a qualche precedente ma parziale tentativo come l'istituzione del Consiglio Economico Nazionale e il piano di intervento a favore dell'edilizia popolare, il famoso piano Fanfani di cui parlava Bendisciolio. Ma anche in questa nuova prospettiva produttivistica la politica di stabilità monetaria e di controllo della spesa pubblica conservò la sua validità. Qui c'è un'analisi che vi risparmio naturalmente, poi la troverete, eccetera, eccetera. Ma la principale condizione che rese possibile questa svolta neostatalista dell'economia italiana fu l'esito elettorale del 18 aprile 48, che pose fine a quel generale clima di incertezza politica che aveva avuto parte non secondaria nel determinare la fisionomia disorganica e contraddittoria della politica economica fin lì attuata. E qui io ripiglio il discorso fatto prima sul piano Marshall, quindi questo aspetto ideologico che prevale sull'aspetto economico, appunto, salvo questo discorso, tra le altre, sono anche altre testimonianze. Mi è sembrata particolarmente significativa questa di Vanoni, che è del marzo 48, ma questo discorso che fanno, questa relazione di Vanoni su questi aspetti, passa completamente ignorata nel dibattito politico del tempo. Si sovrappongono cioè aspetti più politici. Il mutamento degli equilibri politici interni, seguito al 18 aprile, quindi, ebbero effetti decisivi sulla nuova fisionomia socio-economica che l'Italia in seguito avrebbe assunto con la sua trasformazione da paese agricolo-industriale in società eminentemente industriale, non pare di avere, come si è detto, come ho detto prima, effetti immediati sulla politica economica. Stabilizzazione monetaria e controllo della spesa pubblica ne restarono infatti i fondamentali criteri ispiratori. Quindi questo è importante, secondo me. Cioè non c'è, dopo il 48, il 18 aprile, una capacità anche della stessa classe dirigente di capire che era il momento di una svolta nella politica economica. Tutto, da questo punto di vista, diciamo, c'è una, così, una sorta di continuità, nel senso detto prima però. Si accentuò invece il dibattito interno alle forze politiche e sociali uscite vincitrici dalla competizione elettorale sulle forme istituzionali e i tempi di attuazione di una politica di riforma che, nel superamento della deflazione provocata dalla stretta creditizia, affrontasse i principali problemi dell'economia italiana, ossia l'assorbimento della disoccupazione, lo sviluppo delle aree depresse, così si disse, il ripianamento del grave deficit della nostra bilancia dei pagamenti. Problemi tutt'altro che nuovi e che sin dai primi anni del dopoguerra erano stati alla base delle discussioni intorno alla natura e all'ambito dell'intervento dello Stato nella vita economica. Ma gli esiti elettorali del 18 aprile, che escludendo definitivamente le sinistre dalla direzione del Paese, impegnavano perciò stesso i partiti di governo a dar prova della loro capacità riformatrice, la necessità di procedere ad un'adeguata utilizzazione dei fondi ERP dopo l'avvenuta approvazione del piano Marshall, le migliorate condizioni interne dell'economia italiana seguite alla vittoria sull'inflazione imponevano ormai non già di continuare in discussioni più o meno argomentate pro o contro l'intervento dello Stato, ma di compiere concrete scelte operative di politica economica non solo volte al controllo della congiuntura, ma anche alla soluzione delle principali aporie della struttura. Non si comprenderebbe infatti la rilevante forza politica allora assunta all'interno della stessa linea liberista da programmi, posizioni, indirizzi favorevoli all'intervento dello Stato nella promozione di una moderna politica di sviluppo, se essi venissero appiattiti sulla continuità del precedente dibattito tra opposte tendenze e non si tenesse presente invece il maturare della loro effettiva capacità di persuasione nel nuovo quadro non solo politico e parlamentare, ma mentale, culturale, morale, determinatosi in Italia dopo le elezioni del 18 aprile. Furono quindi dall'interno, e qui c'è una dimostrazione, che va bene, leggiamo, alla positiva attuazione di questi nuovi orientamenti della politica economica italiana non parteciparono, se non con un ruolo di frontale e non sempre coerente opposizione, i partiti di estrema sinistra. E ciò sia in virtù dell'iniziativa riformatrice che la collaborazione tra i partiti laici e il centro De Gasperiano della DC seppe sviluppare su questo terreno. Ho già elencato le riforme importanti che nascono da questa collaborazione: rafforzamento dell'IRI, istituzione dell'ENI, Cassa del Mezzogiorno, riforma fondiaria, eccetera, tutta una serie, le ho già indicate prima. Dico, e quindi non soltanto in virtù di questa iniziativa riformatrice, ma soprattutto per l'incapacità delle sinistre di saper distinguere all'interno del capitalismo italiano le posizioni conservatrici dal moderno ruolo propulsivo proveniente dalle più avanzate forze del mercato, donde, come ha scritto appunto uno studioso appartenente all'area marxista, Daneo sarebbe, l'errore di valutazione che caratterizzò nel 1948, come negli anni seguenti, l'azione delle sinistre nell'orientare e dirigere lo scontro di classe. Questo è il giudizio che dà Camillo Daneo, che è, come voi ben sapete, uno studioso appartenente all'area marxista, appunto. Furono quindi all'interno del largo schieramento favorevole alla tutela dell'economia di mercato e dell'indirizzo liberalizzatore che provennero i più concreti contributi costruttivi ad un nuovo orientamento della politica economica. Un segno importante della forza politica acquisita dopo il 18 aprile dalle posizioni rinnovatrici interne alla maggioranza quadripartitica fu, come noto, la relazione ufficiale svolta da Mariano Rumor al congresso nazionale DC del 49. In essa il leader cattolico prospettava bensì la necessaria armonizzazione tra l'iniziativa privata e l'intervento programmato dello Stato, ma irrigidendo troppo, così la sua critica agli indirizzi liberisti come la sua adesione ai modelli interventisti, finiva per formulare solo un generico schema parakeynesiano senza indicare più propriamente i fini e gli strumenti della politica economica. Quest'ultimo giudizio non è mio, ma è di un protagonista del tempo, Sullo, Fiorentino Sullo, ora non più DC, ma DC autorevole allora, che ha scritto un saggio, a mio giudizio, molto importante. È un saggio del 1960, vediamoci bene, quindi non è un saggio recente, sugli indirizzi di politici, sul dibattito politico sulla pianificazione in Italia. E Sullo, che ha partecipato a queste vicende, eccetera, secondo me dà una testimonianza, proprio come io lo uso come fonte di testimonianza, direi abbastanza precisa in materia, quando appunto giudicando, valutando la relazione Rumor al congresso di Venezia del 49, dice sì, è una relazione importante da un punto di vista generale, ma non indica concretamente gli strumenti precisi della programmazione economica. In realtà la vera linea su cui si muoveva Rumor non era quella di ricercare i concreti modi di attuazione di un'effettiva compatibilità tra pianificazione pubblica e mercato, ma una volta a definire un diverso equilibrio dei rapporti tra partito di maggioranza e struttura di governo, vale a dire tra la politica neoliberista del governo e una diversa proposta politica di politica economica avanzata autonomamente dalla DC. E questo, secondo me, il senso di quella relazione. Nelché poi trapelava una visione polemica della stretta collaborazione tra De Gasperi e i partiti laici, ma anche un sottile disegno teso a sollecitare il Presidente del Consiglio all'attuazione di un diverso assetto interno della compagine ministeriale, restringendo il ruolo dei liberisti nella guida della politica economica. Disegno in seguito è chiaramente emerso durante la difficile crisi governativa del luglio 51, sia dall'azione promossa dalla sinistra dossettiana contro Pella, sia dalla sua esplicita richiesta a De Gasperi di affidare a propri esponenti una maggiore responsabilità nella direzione della politica economica del nuovo governo, il settimo di De Gasperi, riducendo al contempo la presenza, almeno nei dicasteri economici, dei fautori della linea Pella. Qui c'è tutto un, appunto, nella lettera al presidente di Malvestiti. Malvestiti in realtà è un pelliano, è un amico di Pella, è un fautore della linea Pella, a mio giudizio un interprete anche abbastanza fedele, non molto brillante, ma fedele della linea Pella. Ebbene, Malvestiti viene proposto come ministro delle finanze, se non sbaglio, e c'è un'opposizione netta di Dossetti. Dossetti rivendica, i dossettiani perlomeno, rivendicano a loro la direzione della politica economica. E allora c'è un compromesso per cui Malvestiti scivola, se così posso dire, al Ministero dei Trasporti, diventa Ministro dei Trasporti. E c'è una lettera di Dossetti che Malvestiti pubblica in questo carteggio che citava Moscati ieri, c'è questa lettera di Dossetti a Malvestiti in cui Dossetti dice no, ma guarda, noi non ce la teniamo con te, tu sei un amico, ci mancherebbe, ma noi abbiamo chiesto a De Gasperi appunto di un intervento nella maggiore, una nostra responsabilità della politica economica, e quindi non è un fatto personale, è proprio, è chiaro, insomma, emerge chiaramente. E dico, devo aggiungere qualcosa in più, Emerge chiaramente perché Malvestiti ha pubblicato questi documenti non con l'intenzione che io vi sto dicendo ora, li ha pubblicati per tutt'altro scopo, quindi la testimonianza è ancora più oggettiva, se così posso dire. Ma il tentativo del gruppo di cronache sociali di erodere dall'interno la gestione politica dei nuovi indirizzi di riforma provenienti dalla stessa ripresa del meccanismo di accumulazione trovò un pragmatico ma solido punto di resistenza in De Gasperi. Per quanto riguarda la politica economica, infatti, è soprattutto su questo piano che emerge la leadership dello statista trentino. Certo, il congresso di Venezia, segnato, come ha scritto un protagonista testimone, dall'urto tra De Gasperi e i Dossettiani, se si chiuse provvisoriamente con un armistizio armato, fu esso stesso fattore primario di una chiarificazione sul tema della socialità della vita economica. Non di meno esso non indebolì, semmai rafforzò la concreta azione di De Gasperi nella tutela degli sviluppi interni al modello neoliberista, non solo dall'opposizione svolta nel Parlamento e nel Paese dall'estrema sinistra, non meno che dalla destra più retriva, ma anche dalle più sottili insidie populistiche presenti nel suo stesso partito. Le moderne teorie keynesiane, cui si ispirava Cronache Sociali, trasferite nella concezione dei leaders più rappresentativi, dal loro ambito meramente economico, a generali visioni etico-filosofiche, trasfiguravano da mezzi concreti di impiego ottimale delle risorse disponibili di un'economia in crisi in astratti richiami evangelici sulla necessità di sanare sperequazioni ed egoismi. Di qui il prevalere di indirizzi al tempo stesso populistici e metafisici, contro cui Luigi Sturzo polemizzerà più volte in scritti che metterebbe conto di leggere, in realtà contrastanti con l'effettivo sviluppo di una libera e moderna società industriale, verso cui l'Italia di allora già pareva avviarsi a grandi passi. Sicché lo Stato sociale, che voleva essere la concreta definizione politico-economica di questa visione generale, veniva prospettato in tal modo da assomigliare più che agli auspicati modelli keynesiani a quella ricerca di una terza via tra capitalismo e socialismo e più largamente tra individualismo e collettivismo già vanamente percorsa qualche decennio prima dai teorici del corporativismo fascista e che si ora veniva riproposta senza alcuna indulgenza ai miti di un nazionalismo esasperato e bellicoso, inclinava però ad un ecumenismo terzomondista e al patrocinio di una eminente vocazione mediterranea dell'Italia, che erano anch'essi tentativi opposti rispetto ai primi, ma non diversi, nella conseguenza di interrompere il faticoso cammino del Paese nell'alveo dell'esperienza storica delle libere democrazie europee. Aver difeso il processo di integrazione dell'Italia, della moderna civiltà industriale, anche dai pericoli di tali prospettive, assorbendo con sagace opera di mediazione i fermenti innovatori pur presenti nel gruppo di Cronache Sociali, nei concreti indirizzi di revisione della politica economica fino allora attuata, mi riferisco all'ingresso di Fanfani dal Ministero del Lavoro fino al Ministero dell'Agricoltura, che allora era un ministero cardine, evidentemente, costituisce merito non trascurabile dell'opera politica di De Gasperi. È in questo contesto che io inquadro la linea Pella, dove porto anche dei documenti inediti che in questo momento non vi cito, attraverso i quali mi soffermo su una misura importante che dimostra come il quadro politico che emerge dal 48 non è un quadro stabilizzatore nel senso così corrente, è un quadro riformatore, cioè la liberalizzazione degli scambi. È un provvedimento che è una riforma doganale, questo è tutto, una riforma delle tariffe. È una riforma delle tariffe che si attua nel 51, la attua la Malfa che è certamente è una figura chiave per intendere bene le capacità riformistiche della maggioranza emersa del 18 aprile, mi pare che la Malfa sia realmente un personaggio tutto da studiare in questo senso. La promuove la Malfa con l'appoggio di Vanoni. Vanoni e la Malfa sono quelli che sostengono la riforma doganale attraverso una riduzione delle tariffe di importazione. Contro questo provvedimento, che è un provvedimento liberista, polemizzano Giustiniani e Faina, cioè due autorevoli membri della Confindustria del tempo, i quali mandano un telegramma a De Gasperi, io lo cito, quindi potete vederlo, un telegramma a De Gasperi preciso, invitando De Gasperi a procedere con molta cautela sulla strada della liberalizzazione degli scambi. Questo avviene nel 49. Però, e questo è importante, già nel 49 c'è una lettera inedita, che io pure pubblico, di Angelo Costa, che è il presidente della Confindustria, il quale Costa scrive appella e auspica sin dal 49 una riforma doganale, una liberalizzazione degli scambi, a condizione però, dice Costa, che questo non serva a creare situazioni di privilegio. Se voi volete liberalizzare l'economia italiana, sia chiaro che deve essere tutto liberalizzato, non possiamo consentire sperequazioni fra industria privata e industria pubblica. Ecco, questo mi sembra importante. E la Malfa attua questa riforma doganale contro la Confindustria, cioè c'è una polemica fra gli ambienti, alcuni ambienti confindustriali e la Malfa, non sulla linea liberista, cioè non sugli obiettivi generali, ma sulle misure attuate dalla Malfa. Cioè la Confindustria voleva un rafforzamento della posizione creditizia dell'Italia, dell'Unione Europea dei pagamenti, che garantisse la lira italiana nell'acquisto di materie prime. Quindi la lira è forte perché con i fondi americani la sosteniamo, io sto riassumendo naturalmente, noi la sosteniamo, e attraverso questo rafforzamento della lira l'industria italiana può acquistare materie prime a condizione di vantaggio. Invece la Malfa, molto più drastica, vuole invece la riforma delle tariffe, cioè abbassa i dazi di importazione in modo che le materie prime affluiscono direttamente. Ci fu una polemica molto violenta e in seguito a posizioni a volte dure, dice la documentazione inedita, del tutto inedita perché sono atti inediti completamente, attraverso la dura presa di posizione di La Malfa, il governo attua la riforma doganale. E questo provoca dei sussulti interni alla DC. C'è una lettera di Togni allora non è al governo, ma è stato già ministro dell'industria nel sesto governo De Gasperi, allora è un deputato autorevole, tra i più autorevoli direi della DC, e c'è una lettera piuttosto polemica di Togni a De Gasperi, in cui Togni dice: Vanoni e la Malfa non devono fare queste cose, è opportuno che il Parlamento ne discuta prima, e se il Parlamento non ne vuole discutere, perlomeno il nostro gruppo. Togni naturalmente polemizza, perché Togni credo che appoggia un po' le tesi confindustriali, se voi volete. Ecco. Ora, la liberalizzazione degli scambi del 51 è proprio una riforma liberista in questo caso. C'è una riforma liberalizzatrice, ma è una riforma, non è affatto né conservazione, né, anzi al contrario, è un provvedimento liberista che viene invece osteggiato dagli esponenti più retrivi, se così posso dire, dell'industria italiana. Il che vi dimostra ulteriormente come la storia non si può fare. Adesso, poi c'è la terza parte sul Mezzogiorno, sì, non, anche meglio, meno breve. No, sì. Ma adesso è meglio che il professore. Alberti hat jetzt mit einer Fülle von Einzelheiten, die ich nicht alle übersetzen möchte, man müsste dann nämlich auch noch viel mehr, als er selbst gesagt hat, aus dem jeweiligen wirtschaftshistorischen Kontext hinzufügen, hat mit einer Fülle von Einzelheiten seine Grundthese erläutert, dass es sich nicht um zwei Schulen handelt, sondern um komplizierte Entscheidungsprozesse, vor allem innerhalb der christlichen Demokratie. Innerhalb der christlichen Demokratie, wobei der Ausgangspunkt die Wahlen vom 18. April 1948 gewesen sind, die mit De Gasperi und seiner Politik der kleinen Parteien, Zentrumsparteien, Republikaner, Liberale, Sozialdemokraten eine klare parlamentarische Mehrheit gaben und damit die Möglichkeit, das Ende der Unsicherheit, wo geht überhaupt die italienische Wirtschaftspolitik hin, bedeuteten. Es war nicht einfach so, dass die Entscheidung weg von Agrar, von einer gemischt agrar-industriellen Gesellschaft hin zu einer vorwiegend industriellen Gesellschaft ging, sondern es war so, dass mit einer Fülle von einzelnen Entscheidungen, währungspolitischer, vor allen Dingen währungs- und zollpolitischer Natur, die der Weg, ein, wie er sagt, tatsächlich dritter Weg, weder Planwirtschaft noch Marktwirtschaft beschritten wurde, wobei die Hauptopposition, die wirtschaftspolitische Hauptopposition von einer Gruppe um den damaligen Abgeordneten Dossetti, mit der eine Zeitschrift herausgab, in der ein viel stärkerer Anspruch der Dossettianer auf die Führung der Wirtschaftspolitik betont wurde. Wenn man das, was Dossetti wollte, auf einen ganz kurzen Nenner bringen will, dann war es sehr direkte Übertragung von theologischen Konklusionen und philosophischen Positionen auf konkrete Wirtschaftspolitik. In dem Sinne war Dossetti ein Integralist, von der Linken, vom theologischen her. Er hat diesen Ausdruck nicht benutzt. Lassen wir das Problem beiseite. Metaphysica ho operato io. Er hat von Metaphysik, also von philosophischen, von Wesensaussagen gesprochen, wobei also alte Tradition dei Populari o Populisti? Wobei alte populistische Traditionen mit diesen metaphysischen Positionen zusammenkommen. Man kann es auch studieren, etwa an den Schriften, die Don Sturzo, der ehemalige Führer der Populari und Gründer der Populari, der erst Ende der 50er Jahre gestorben ist, damals geschrieben hat. Und er hat dann die Auseinandersetzungen geschildert, die bei den Diskussionen über die Abschaffung der Zölle zwischen La Malfa auf der einen Seite und dem Bundesverband der italienischen Industrie, würden wir sagen, der Confindustria, geführt werden, wobei die Confindustria keineswegs eine zollpolitische Privilegierung ihrer eigenen Wirtschaftsinteressen wünscht, sondern wenn Veränderung der Zollpolitik, dann prinzipiell und generell für alle Bereiche und alle Gruppen, während La Malfa nur bestimmte Dinge, wir wollen die Einfuhrzölle für Rohstoffe gesenkt werden, das soll aber keine allgemeine Zollsenkung erfolgen. Ähnliches ließe sich auch bei der Frage der Währungsliberalisierung, also der Konvertibilität der Lire in andere Währungen begründen. Noch einmal, die Auseinandersetzungen und die Entscheidungen waren nicht Entscheidungen zwischen zwei Schulen, sondern interne Entscheidungen, wobei de Gasperi eine sehr vorsichtige Politik betrieben hat. Es wird hier an den Kongress, ich meine von Venedig erinnert, der von einem Zeitgenossen damals als einen bewaffneten Waffenstillstand zwischen den Dossettianern und de Gasperi beschrieben worden ist. Hat noch vergessen zu sagen, dass vorher, spielte auch für seine Argumentation eine wesentliche Rolle, der spätere, auch als Ministerpräsident und sofort bekannte damalige Abgeordnete Rumor, hat 1949 bei einem Kongress der Demokratia Christiana das entscheidende Referat gehalten. Es ging dabei Rumor nicht um ein neues Modell, ein neues nationalökonomisches Modell zwischen Marktwirtschaft und Nichtmarktwirtschaft, Planwirtschaft, sondern es ging um eine Veränderung des politischen Gleichgewichts oder man kann auch sagen Über- und Untergewichts zwischen den mehrheitsbildenden Parteien und den Stellen in der Regierung, die die Wirtschaftspolitik machten, was dann auch noch durch eine Reihe von Ministerbesetzungen und Ministerumbesetzungen, de Gasperi hat ja sehr oft in seiner Regierungszeit sein Kabinett geändert, was hier durch Verschiebung von Ministerposten, auf die ich nun im Einzelnen nicht mehr eingehen möchte, weil das, glaube ich, für den wirtschaftlichen Zusammenhang nicht so wichtig ist, was sich daran demonstrieren ließ. Wobei ich vielleicht noch für die deutschen Teilnehmer hinzufügen kann, dass gerade diese inneren Auseinandersetzungen, von denen Herr Aliberti spricht, bisher ganz unbekannt waren, weil er Quellen herangezogen hat, Quellen aus der zum Beispiel einen sehr wichtigen Brief Costa an Pella, Costa war Präsident der Confindustria, die bisher völlig unbekannt sind. Das, was de Gasperi wirtschaftspolitisch tat, war die sogenannte Linea Pella, also das, was er vorher als den dritten Weg bezeichnet hat. In tale ambito va collocato il Mezzogiorno, problema specifico su cui maturarono tanto i principali indirizzi di revisione della politica economica dell'età de Gasperiana, quanto gli stessi limiti fondamentali da questi attinti nelle loro fasi di realizzazione. E qui c'è un'analisi sulle condizioni economiche del Mezzogiorno del secondo dopoguerra, condotta questa volta per ovvio ragione di contrasto filologico, questo è chiaro, non sulle fonti quantitative ma sulle fonti qualitative, ossia non sulla base di relazioni statistiche, di dati eccetera, ma sulla base delle relazioni dei prefetti che inviano i prefetti dal 46 io parto fino al 49, perché fino al 49 è possibile vedere in archivio, dalle relazioni dei prefetti, che è materiale sulla situazione dell'ordine pubblico, delle condizioni economiche eccetera, non viene fuori una condizione meridionale così dilacerata e miserabile, quale invece poi appare dalle analisi della coeva letteratura meridionalistica e dalle analisi poi statistico-quantitative. Sembra anzi che la situazione più dal punto di vista economico-produttivo sia più tragica al nord che al sud. Al sud i bisogni delle popolazioni meridionali sono quasi ovunque le stesse, ossia nell'aggravarsi di una disoccupazione di manodopera non qualificata, cioè più rurale e terziaria che operaia e tecnica, nel bisogno assoluto di beni di consumo primario, specie manifatturieri, nel crescente logoramento del potere d'acquisto di percettori di redditi fissi. È chiaro che da questa maggiore omogeneità che presenta la vita economica meridionale rispetto a quella del nord è indice appunto di una situazione meno evoluta, meno progredita, questo è chiaro, va da senso. Ecco. Però c'è questo aspetto. In effetti, nonostante il diffondersi subito dopo il crollo del regime e nei primi anni del dopoguerra di un acceso dibattito meridionalistico tra i partiti democratici e tra uomini rappresentativi dell'antifascismo, le strutture socio-economiche di base della società meridionale non dettero ad esso alcun valido supporto oggettivo con lo stimolare un'accentuata partecipazione dei numerosi quadri dirigenti intermedi rappresentati dalla piccola e media borghesia locale. Sicché la discussione della questione meridionale rimase per tutto il corso dell'età de Gasperiana come scissa tra il forte impegno civile e programmatico di una minoranza di politici e studiosi progressisti di derivazione crociana, cattolica, liberal-socialista e l'opposta ideologia rivendicativa delle masse contadine patrocinata dai partiti marxisti col sostegno culturale di intellettuali più o meno organici nella generale prospettiva dell'alleanza operai-contadini postulata dal disegno strategico gramsciano. La maggior parte della piccola e media borghesia meridionale, infatti, restò sostanzialmente indifferente alle tensioni ideali, alle ragioni politico-culturali, ai medesimi contenuti programmatici che animavano gli opposti fronti della battaglia meridionalistica, e scese in campo con la forza determinante del suo potere, spinta soprattutto da un complesso intreccio di motivi politico-economici e ideologico-religiosi, quasi mai coincidenti con una visione chiara e moderna della tematica meridionalista. Smaglieremmo nel ritenere però che negli anni della ricostruzione del centrismo la piccola e media borghesia meridionale abbia svolto un ruolo puramente vandeano in un più largo fronte qualunquistico e destrorso. I consensi che essa seppe mobilitare il 18 aprile, anche tra i ceti popolari urbani e le masse contadine, a favore della DC de Gasperiana e dei partiti laici ad essa già associati nella direzione politica ed economica del Paese, costituirono un apporto prezioso per il definitivo consolidamento dell'assetto politico italiano nel moderno quadro delle libere democrazie dell'Occidente e insieme l'indispensabile premessa politica all'attuazione di quella svolta meridionalistica della politica economica italiana attuata nel 50 con la riforma agraria e la cassa per il Mezzogiorno. È merito indiscusso dei meridionalisti di formazione liberal-democratica e cattolica, cattolica soprattutto Saraceno e il gruppo Svimez, aver valutato realisticamente il ruolo decisivo che in qualsiasi ipotesi avvenire la piccola e media borghesia meridionale avrebbe sempre avuto nella vita del Sud. Di qui il conseguente contrapporre così alle tematiche classiste del blocco agrario come alle nostalgie meridionalesche della destra economica e spirituale più retriva, un modello di sviluppo del Mezzogiorno finalizzato ad una radicale trasformazione qualitativa del ruolo fino allora svolto dalla piccola e media borghesia meridionale, sì da mutarla da tradizionale presidio di un'arretrata struttura agraria e semi-industriale in una forza promotrice di una moderna società industrializzata. E nella prospettiva dell'industrializzazione del Mezzogiorno, l'indifferenza o lo scetticismo di quell'ampio tessuto politico-sociale, da sempre controllato e saldamente dalla tradizionale middle class rurale urbana, sarebbero stati cancellati dalla sua diretta assunzione di concrete responsabilità operative per un progetto di soluzione della questione meridionale. Tale è il tema socio-politico di fondo del neomeridionalismo, soprattutto liberal-democratico, quale inizia a riflettersi con maggiore o minore chiarezza negli indirizzi di revisione della politica economica dell'età dei Gasperiani, indirizzi per i quali l'industrializzazione del Sud costituiva il fine ultimo di una politica di intervento pubblico e quindi da realizzare in tempi successivi, ma che intanto doveva dare coerenza ad una serie di scelte intermedie finalizzandole e perciò chiarendole rispetto a tale obiettivo generale. Da qui io esamino questi due provvedimenti su cui sarò telegrafico, cioè la riforma agraria e la cassa per il Mezzogiorno. La riforma agraria, lo abbiamo già accennato ieri, in realtà nasce come un progetto di riforma sociale. Costituisce da un punto di vista politico il faticoso punto di equilibrio, di incontro, di contrasti direi piuttosto accesi, piuttosto duri, fra la proprietà fondiaria nella sua completezza e i partiti della sinistra. E non a caso si riesce a trovare un punto di equilibrio, ripeto, sociale, politico-sociale, proprio per la saldezza del quadro politico che è emerso il 18 aprile. La riforma agraria, certamente, noi dobbiamo dire che la riforma agraria non è stata, evidentemente, non ha raggiunto in gran parte i propri obiettivi. Non li ha raggiunti per una serie di ragioni che io sintetizzo nella relazione. In definitiva, mancarono articolati indirizzi di pianificazione degli ordinamenti produttivi ispirati allo sviluppo a medio e a lungo termine del reddito agricolo e determinati dalla diretta partecipazione decisionale della nuova possidenza agraria emersa dalle leggi di riforma. E in ciò si riflette la più generale inadeguatezza della struttura amministrativa dello Stato italiano di quegli anni a svolgere i difficili compiti richiesti da una moderna politica di sviluppo economico che costituisce senza dubbio il maggior limite posto oggettivamente alla riforma allora attuata. Ma per quanto riguarda la riforma agraria, è lecito chiedersi, e credo che i tedeschi dovrebbero dirci qualcosa, se una più organica ed efficiente politica pianificatrice, volta a creare solide strutture agricole e moderne relazioni di mercato, avrebbe ottenuto realmente i migliori risultati rispetto alle forti tradizioni di individualismo dei contadini meridionali e al loro attaccamento ad un retaggio socioculturale difficilmente assimilabili anche dagli schemi di una pianificazione democratica, e che invece non pochi fautori della riforma, soprattutto tra i democristiani, anche tra i non comunisti, considerarono allora semplici variabili interne modificabili al mutare della forma assunta dai rapporti di produzione. Il mistero antropologico del contadino, perlomeno meridionale, ma direi europeo, è anche lì, ecco, certi progetti di riforma si impattano in quella realtà, evidentemente. Quindi una pianificazione, è tuttora lecito chiederci se una pianificazione agraria nel Mezzogiorno avrebbe migliore di quella che fu attuata, avrebbe realmente ottenuto maggiori risultati. C'è un giudizio che io riporto di Riccardo Musatti, che era un collaboratore di Adriano Olivetti, era un architetto, quindi un urbanista, e lui gira il Mezzogiorno dopo qualche anno sulla riforma fondiaria, va un po' per il Mezzogiorno, e esame, coglie molto bene questo aspetto. Il compito dei riformatori, dice Musatti, è di estrema delicatezza, eppure è lecito talvolta dubitare che essi siano pienamente consci che si tratta di trasfondere vecchie in nuove forme di vita, non uomini, bestie, attrezzature, da un sordito abituro ad una casetta decente. Si tratta di innestare una collettività in un quadro produttivo, non di piantare più fitti pali di confine o vitigni in luoghi di sterpi, e neppure di organizzare il lavoro in diverse ma non più libere forme. Ecco, Musatti, che scrive questo nel 55, scrive queste osservazioni, Musatti individua già, non con la chiarezza nostra ovviamente, ma già individua proprio questa difficoltà, ecco, della pianificazione, dell'intervento statale a pianificare realmente una struttura agraria, una struttura contadina meridionale piuttosto complessa. E il fallimento della riforma agraria ascritto anche ad altre ragioni. La principale qual è? La principale è che la riforma agraria avviene in un momento durante la seconda industrializzazione. Ecco. Lo slancio industriale appunto dell'area centro-settentrionale della penisola, il quale, provocando un massiccio esodo rurale dal mezzogiorno verso i tipi di reddito più remunerativi e più elevati modelli di consumo offerti dall'industrializzazione in atto, indebolì ulteriormente la già fragile capacità competitiva dell'agricoltura meridionale. E molti assegnatari, anche concessionari delle terre, in effetti hanno abbandonato queste terre, se ne sono andati, oppure hanno dedicato questi terreni ad altri usi, per esempio lungo tutta la fascia litoranea. Con lo sviluppo turistico, molti di questi poderi sono stati trasformati in alberghi, e i contadini del tempo ricavano dei pigri guadagni non più dalla terra, bensì dall'affitto dei casali, eccetera, eccetera. Il che vi dimostra appunto questi limiti oggettivi, eccetera. L'altro provvedimento è la cassa per il Mezzogiorno, su cui non credo che ci sia da dire molto. In realtà prevale nelle tante gasperiane, io produco delle cifre qua, prevale una politica di progresso civile più che una politica di sviluppo economico. La cassa del Mezzogiorno durante l'età decasperiana effettua una serie di interventi sostitutivi, non di interventi aggiuntivi. La cassa nasce come finanziamento straordinario, evidentemente, e invece deve sostituire lo Stato in una serie di misure, di provvedimenti, soprattutto tese a ricostituire la vocazione ambientale del Mezzogiorno, cioè settore delle bonifiche, dei lavori pubblici, agricoltura, che vi devo dire, viabilità, ecco, c'è una serie di opere pubbliche che io qui elenco debitamente. È un limite questo? No, non è un limite, perché è dovuto come una certa così corrente, non ancora storiografica, è ancora politica, dice soltanto al fatto, al clientelismo meridionale per cui andavano i sindaci, andavano, no, è dovuto soprattutto alla composizione della domanda pubblica. Il Mezzogiorno di quegli anni è una realtà da questo punto di vista arretrata. È la prima volta che lo Stato italiano si trova di fronte alla possibilità di realizzare un piano di intervento pubblico massiccio. E non era possibile, evidentemente, prima ancora che diremmo dar vita a una politica di sviluppo industriale, era necessario appunto dar vita a una politica di progresso civile. Fu questo, direi, il limite oggettivo, direi, di questo della Cassa per il Mezzogiorno. Ma per tornare, e qui ci sono alcune considerazioni un po' anche attuali, e va bene. Va detto che, per tornare alla data gasperiana, va detto che la massiccia politica delle infrastrutture realizzata dalla Cassa in quegli anni fu resa possibile riguardo al relativo incremento della spesa pubblica, nonché da una favorevole congiuntura internazionale, dalla stessa compatibilità che essa di fatto assunse con la seconda industrializzazione italiana, creando nel sud un ampio mercato di assorbimento dei prodotti industriali del nord. Ma considerare ciò solo come un grave caso di subordinazione del Mezzogiorno al più maturo sistema economico settentrionale appare, se non immotivato, quantomeno unilaterale, se non si tiene presente che quella politica mutò radicalmente la retrata fisionomia civile della società meridionale, costituendole un patrimonio di attrezzature e di servizi collettivi che solo un moderno apparato industriale, sostenuto in termini di conto economico da un adeguato sforzo finanziario pubblico, era in condizione di attuare. Certo, diverse delle opere allora realizzate si rivelarono ben presto infunzionali o scarsamente utilizzabili rispetto alla profonda redistribuzione della maglia degli insediamenti umani e ai forti movimenti migratori interni ed esterni all'area meridionale iniziati appunto negli stessi anni. E in ciò, come si è già detto, per la riforma agraria si rivela il limite principale della politica di intervento. A riguardo io pubblico un documento nel testo proprio, che non vi leggo naturalmente, che è molto interessante perché è un promemoria inedito del 50 che è nelle carte De Gasperi. Un lungo promemoria con cui il ministro della Marina Mercantile del tempo, Alberto Simonini, socialdemocratico, che era membro del comitato dei ministri per la Cassa per il Mezzogiorno, è un promemoria che Simonini manda a De Gasperi. In questo promemoria viene individuato, direi in modo abbastanza felice, probabilmente il promemoria è anonimo, devo ritenere che non ne fu certo Simonini l'estensore, però né Simonini ne assunse il patrocinio politico. Proprio viene individuato il limite della Cassa per il Mezzogiorno proprio nel senso con cui è apparsa poi dopo, cioè come organo non ben calibrato rispetto alla struttura generale dell'apparato amministrativo dello Stato, che è la critica più, a mio giudizio, più pertinente che si può fare alla Cassa per il Mezzogiorno. Cioè quella di non aver saputo trovare un'adeguata linea di intervento all'interno di un contesto amministrativo già esistente. Ed è molto importante. Per esempio, importantissimo è il fatto, questo è interessante, come questo promemoria sostiene che non ci deve essere il comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Il presidente della Cassa deve essere lui direttamente responsabile di fronte al Parlamento o di fronte al governo. Il comitato dei ministri, dice questa memoria, è un organismo un po' equivoco, è un organismo che in un certo punto non si capisce bene che cos'è, mentre deve essere netta, siccome si tratta di un intervento politico, la responsabilità politica del Presidente deve essere precisa e direttamente orientata verso il Parlamento. Ecco. E poi ci sono altri aspetti, direi, abbastanza interessanti. E così, la conclusione che si può trarre da tutto ciò qual è, e ve la leggo subito. In realtà, le carenze di fondo della politica meridionalistica dell'età de Gasperiana si ritrovano appunto nella mancata coincidenza tra gli obiettivi di riforma maturati negli orientamenti di politica economica e la permanenza di strutture fini della funzione pubblica in ambiti amministrativi e in logiche di comportamento tradizionali o comunque non rispondenti ad un'efficiente realizzazione di questi obiettivi. A questa profonda contraddizione interna alla politica di intervento, delineatasi al culmine dell'età De Gasperiana, corrispose nell'ultima fase dell'esperienza umana e politica di De Gasperi un chiaro sforzo di riflessione critica, favorito dallo stesso statista trentino, per ridefinire l'intera fisionomia dei rapporti tra strumenti dell'azione pubblica e programmi di politica economica all'interno di un organico piano di sviluppo dell'economia italiana. Lo schema Vanoni, come è noto, segnò l'abbrivo di questa rinnovata impostazione, tracciando altresì la linea di un parziale distacco col prevalente indirizzo assunto dalla politica economica fino allora attuata nei confronti del Mezzogiorno. Teil, den Herr Aliberti nun sehr kraft vorgetragen hat, wobei er vor allem eine Fülle von wirtschaftsgeschichtlichen Einzelheiten aus der Geschichte der italienischen Wirtschaftspolitik im Mezzogiorno in den Jahren De Gasperis vorgetragen hat, stützt er sich auf eine bisher unerschlossene Quellengruppe, nicht quantitativer Natur, Statistiken gibt es natürlich sehr viele, sondern qualitativer Natur, nämlich auf die Berichte, auf die wirtschaftspolitischen laufende Berichterstattung der Präfekten, die ihm für die Jahre 46 bis 49 zugänglich ist. Das Problem, dem sich die italienische Regierung der Nachkriegszeit im Süden gegenüber sah, bestand darin, dass im Unterschied zu Mittel- und Norditalien im Süden eine, wenn man es von der Modernisierung her nimmt, rückständige Wirtschaft und Gesellschaft geblieben war. Es gab eine Fülle ungelernter, arbeitsloser Landarbeiter, insofern viel Homogenität, aber wenig Produktivität. Das hat der Aliberti nicht so gesagt, aber ich kann es vielleicht, darf es vielleicht so zugespitzt formulieren, weil seine Argumentation darauf hinauslief. Nun hatte gerade für den Wahlerfolg vom 18. April 1948 hatten die Schichten des Kleinbürgertums und des Mittelstandes den Sieg De Gasperis und der ihn unterstützenden Parteien gerade im Süden wesentlich bewirkt, weil sie das Gelenk, das Verbindungsglied hin zur Landbevölkerung darstellten. Und es war nun die Frage, was soll geschehen dort, wobei auf der einen Seite die Schule Croce, die von der katholischen Soziallehre herkamen und die Liberaldemokraten gegen die marxistischen Gruppen standen, hier das Programm Gramsci, der gemeint hatte, man muss die Industriearbeiter und die Landarbeiter zusammenführen. Und das führt nun dazu, dass zwei große Reformprojekte oder zwei große wirtschaftspolitische Projekte versucht worden sind, die aber beide gescheitert sind. Das ist die, oder jedenfalls nicht ihr Ziel erreicht haben, obgleich es eine Fülle von Einzelgesetzgebungen gibt. Das ist einmal die sogenannte Agrarreform, die bedeutete Besitz, der nicht selbst bewirtschaftet, aufteilen und dafür mehr ländlichen, klein- und mittleres Eigentum schaffen. Und auf der anderen Seite die große Bankgründung, die Cassa del Mezzogiorno. Wobei die Schwierigkeit darin bestand, dass wenn man diese beiden Projekte ausführen wollte, zugleich die gesellschaftliche und politische Funktion gerade der Schichten, die in den Wahlen den Erfolg gebracht hatten, verändert werden musste. Sie mussten von ihrer bisherigen Führungsposition abtreten und mussten dies in eine Vermittlerfunktion, sie mussten ein Bindeglied werden zwischen dem, was die Regierung, was die Parteien wollen und was die außerstädtische Wählerschicht, wodurch die außerstädtische Wählerschicht durch wirtschaftspolitische Maßnahmen in einer neuen gesellschaftlichen Position dann politisch werden soll. Und er hat nun nacheinander zunächst die Agrarreform und dann über die Cassa del Mezzogiorno gesprochen, wobei die Agrarreform nach Auffassung, die er Aliberti begründet hat, eigentlich nicht im wirtschaftlichen, sondern im anthropologischen scheitert. Er sprach hier vom Mistero antropologico dei contadini. Voraussetzung dafür, kleine und leistungsfähige kleine und mittlere Betriebe in Süditalien zu schaffen, wäre, dass die Einstellung der Menschen zum Wirtschaften sich verändert hätte. Die veränderte sich aber nicht. Es wurden Häuser gebaut, und dann kam der Tourismus und dann wurden die an Fremde vermietet und das Land blieb weiterhin unbebaut. Um einmal es an einem aber nicht vereinzelten Sonderfall, sondern an einem weit verbreiteten Fall. Er hat dann ein längeres Zitat von Mussati, eines Architekten, der an dieser Agrarreform beteiligt war, aus dem Jahr 55 gebracht. Ich habe es jetzt nicht gerade mehr hier wörtlich, es ist auch nicht notwendig, es wörtlich zu übersetzen, der aber im Wesentlichen sagte, unsere Agrarreform erreicht ihr Ziel nicht, weil die Menschen im Süden, die von dieser Reform betroffen werden müssten, sie nicht akzeptieren, sie nicht annehmen. Ihr Verhalten sich jedenfalls nicht so verändert, wie es Voraussetzung wäre, dass diese Reformen sich ändern. Umgekehrt ist es mit, oder nicht ganz so ist es bei der Cassa del Mezzogiorno. Muss noch zur Agrarreform hinzufügen, die Agrarreform vollzieht sich, während gleichzeitig die zweite Industrialisierung in Mittel- und Norditalien ein wesentlich höheres Sozialprodukt schafft, ein Sozialprodukt, in dem dann der Süden als Lieferant von Agrarprodukten für den Norden zurückbleibt oder auch durch Touristik, der Süden als Touristikland für den Norden, aber nicht die eigene Wirtschaft im primären Wirtschaftssektor keine Änderung erfolgen. Bei der Cassa del Mezzogiorno sieht er das Scheitern mehr in der Ambiguität, in der Tatsache, dass die Frage, wer soll eigentlich hier etwas tun und wer soll entscheiden, nicht klar gelöst worden ist, die Kompetenzfrage. Cassa del Mezzogiorno bedeutete, es soll Kreditmöglichkeiten geschaffen werden, mit denen Wirtschaftsveränderung dann möglich ist. Anche interventi diretti oltre che credito. Sempre appunto sostitutivi. Ja, aber gedacht war das Ganze als eine, wenn ich Herrn Aliberti richtig verstanden habe, zunächst als etwas Subsidiäres, als etwas, was noch hinzukommt, beziehungsweise die Frage, soll das hier ergänzend sein oder soll es das Bestimmende sein? Das ist umstritten und er hat dann ein recht interessantes Dokument, das in dem Text, wenn er gedruckt wird, abgedruckt ist, in dem es darum geht, in dem ein Minister, der zuständige Minister für die Cassa del Mezzogiorno schreibt, wenn wir schon das ganze Projekt Cassa del Mezzogiorno ernst nehmen, dann dürfen wir die Grundentscheidungen der Cassa del Mezzogiorno nicht an die Entscheidungen des Kabinetts binden, sondern müssen ihm eine autonome Entscheidungsbefugnis geben. Praktisch müssen wir der Casa del Mezzogiorno direkte politische Verantwortung übertragen. Er hat es nicht gesagt, aber vielleicht für die Diskussion darf ich schon hinzufügen, das ganze Problem, gibt es eine einzige Quelle für politische Kompetenz oder gibt es zwei Quellen oder mehrere Quellen für politische Kompetenz, steht noch dahinter, sodass zum Schluss der Ära de Gasperi die inneren Widersprüche in dem politischen Ansatz, die ungeklärt worden sind, überdauerten. Auch von daher ist das, man darf eigentlich nicht so sehr von einem Scheitern der Casa del Mezzogiorno als von einem Nicht-Erreichen der Ziele. Nun, es ist also, ob das Wasserglas halb voll oder halb leer ist, das ist letzten Endes eine Beurteilungsfrage. Aber diese beiden Dinge, die in dem ausführlichen Text nun mit einer Fülle von Einzelheiten, die Herr Aliberti aber nicht vorgetragen hat und die ich in der Geschwindigkeit auch jetzt nicht so aufnehmen konnte, dass ich sie vortragen könnte. Aber wir werden ja in der Diskussion sicherlich noch Möglichkeit haben, dazu zu fragen. Ich glaube, dass das Wesentliche gewesen ist, was er vorgetragen hat. Und wir können dann, glaube ich, nach einer kleinen Pause. Die deutschen Teilnehmer noch auf einen Punkt hinweisen, der den Italienischen selbstverständlich ist, uns aber keineswegs selbstverständlich ist. Es ist die Bedeutung, die der Mezzogiorno als Tatsache und als Problem für die italienische Nationalgeschichte hat. Das, was Herr Aliberti vorgetragen hat, ist nicht ein Teil italienischer Lokal- oder Landesgeschichte, sondern ist eine der Grundfragen der Entscheidungen der nationalen italienischen Politik. Ist also etwas, was weit über regionale Bedeutung hinausgeht. Das müssen wir uns immer präsent halten. Ein zweiter Punkt, der nicht nur die Deutschen betrifft, sondern auch die Italiener und völlig anderer Natur, aber wichtig ist, am kommenden Freitag um 14.30 Uhr wird die Buchhalterin kommen, um die Gelder auszuzahlen, Reisegelder, Unterkunft. Anche se premetto che appunto non sono esperto e adesso vorrei fare un vero intervento direi più come testimone, come ricordi del, non dico dell'infanzia, ma dell'adolescenza, sì, e che non come storico. Ecco, due punti cioè vorrei dire. Uno è più generale, che tocca solo lateralmente la relazione di oggi, ma che vorrei che particolarmente i colleghi tedeschi insomma considerassero per vedere se anche qui ci sono delle interazioni, e un altro invece che è più collegato con la relazione. Il primo punto riguarda il cosiddetto integrismo di Dossetti. Ma lui non ha detto io. Ecco, era la il versetto. Il problema è questo, cioè che probabilmente occorre molta considerazione sulla situazione del mondo cattolico dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia. Quando Dossetti cominciò a radunarci in gruppi di ragazzi, io avevo 14-15 anni, quindi sono proprio ricordi, i libri che ci diede in mano erano Maritain, Mounier e poi in Italia Croce, Gramsci e Jemolo. Le discussioni con tutti i gruppi, diciamo, di quello che allora si chiamava dossettismo, quindi furono premiate da una parte nel tentativo proprio di superamento di tutto l'integralismo cattolico tradizionale. Ricordiamoci che la filosofia cattolica in Italia era la neoscolastica voluta nel senso della rigidità quasi assoluta con cui veniva gestita, insomma, allora. Adesso mi ripeto io. L'Italia. Mi ribello io che ho studiato alla Cattolica. No, no, no. È una battuta. E domando scusa, ho voluto fare un... Anche successivamente, gli anni alla Cattolica erano caratterizzati proprio per questo. Al giorno si sentivano le lezioni ufficiali, al pomeriggio ci si trovava e si discuteva la filosofia francese, si leggevano i testi francesi in gran parte, ecco, e discutevamo anche l'economia sulla base di cronache sociali e sulla base di discussioni con quello del nostro gruppo, che poi adesso è l'attuale ministro di Industria e Sviluppo, che è uscito dalla sinistra cristiana dopo la guerra, quindi è stato dentro le regioni, e che era invece diventato, diciamo, l'economista dei gruppi dossetiani, se vogliamo chiamarli così. Caffè anche, ma comunque. Cioè, in sostanza, quello che mi preme, a parte del chiarimento sulla situazione italiana, che appunto io non sono in grado di dare, e esigerebbe una riflessione molto più ampia, è quello di sapere dai colleghi tedeschi se nel mondo tedesco tra il 46, il 47 e il 50-54 noi abbiamo avuto un tipo di ripensamento interno al mondo cattolico, dell'ampiezza, diciamo, di quello che si è svolto qui all'interno di quello che mi ha chiamato docentismo, in cui non è che ci fossero filoni anche integralistici, ecco, però bisogna andare molto cautamente, direi, a interpretare quella che è stata la presenza di questi gruppi partendo da quello che è stata la storia poi ex post, ecco, perché paradossalmente si può rovesciare la situazione dicendo che Dossetti ha lasciato la DC ed è diventato prete e monaco proprio perché non era integralista, cioè proprio per la lucidità estrema con cui ha condotto un certo tipo di discorso di separazione, seppure di separazione tra la sfera civile e quella religiosa, seppure con alcune contraddizioni che capitano sempre nella vita, ma mi sembra che sia abbastanza importante, insomma, ecco, cogliere questo tipo di presenza che ha dato frutti molto lentamente, ma certamente in quell'epoca per la prima volta, direi, a noi giovani ha dato la possibilità di superare, ecco, le antinomie laiche e clericali per trovare invece un tipo di piattaforma culturale ed anche economica che avesse una consistenza propria e una sua autonomia. Questo per noi è stato molto importante. Da questo punto di vista credo anche, e qui entro un po' più vicino alla relazione, che diciamo, la fase declinante di De Gasperi sia meno legata ai contrasti con Dossetti che non agli urti con tutto un mondo di forze economiche e politiche che hanno impedito o ostacolato le proposte di rinnovamento. Esatto. Questo è un po' una mia sensazione. Dopo il congresso del 52, dopo il 52 non c'è dubbio che De Gasperi apre a sinistra, se così posso dire, in termine molto molto schematico. Cioè hai ragione in questo senso. Qui in campo economico la relazione ne accenna, ma probabilmente si può sviluppare il discorso. Cioè quando si parla di Confindustria bisogna dire che la situazione del Confindustriale, per quel che mi ricordo, dei primi anni 50, è totalmente diversa da quella attuale. In qualche modo era il dominio della Montecatini, della Edison, dei grandi monopoli. Giustiniani e Fregno. Era talmente forte per cui c'era questo interlocutore, direi, come principale interprete della vita economica italiana. E quindi, per quel che, appunto, ripeto, io non sono affatto storico, ma nemmeno storico economico, ecco. ma per quel che ricordo e per quel che ho letto, mi pare che allora il problema non fosse tanto, e qui è appunto la domanda più vicina alla relazione, la lotta tra statalismo e liberismo, quanto molto spesso la lotta tra coloro appunto che volevano mantenere, sia sul punto di vista grave, per quanto riguarda la politica grave, sia per quanto riguarda la politica industriale, delle situazioni di privilegio molto ben consolidate nel tessuto economico italiano, e coloro invece che cercavano in qualche modo di intaccare queste situazioni. Che, questo, che questa diciamo, lotta per la riforma venisse, e qui credo che appunto, a me se non ho interpretato male, a me sia d'accordo, l'avete detto bene, insomma, venisse sia sul piano statalista che su quello liberista, sono perfettamente d'accordo. Cioè noi troviamo questo sforzo di intaccare queste situazioni, diciamo, di incrostazione di potere, sia nell'avanzata appunto delle proposte di interventi statali, che Saraceno, ecco, sia stato il più grande interprete, insomma, nel senso positivo di questa prima fase, l'economista Saraceno, ecco, sia anche in senso liberista, cioè con l'apertura verso l'Europa, che appunto io credo non sia in contraddizione, insomma, ecco, ma sia conciliabile. Che poi in un secondo tempo la creazione di questi grandi enti statali, invece di essere vista in funzione della rottura dell'equilibrio tradizionale, sia stata attuata, come è stato detto anche, e credo che in parte sia divenuta un'occupazione dello Stato, o piuttosto che un intervento dello Stato nel mondo economico, cioè si sia trasformato in una continua in un continuo sviluppo di impadronimento, di leve del potere da parte del nuovo centro che si è sviluppato all'interno delle aziende di Stato, della Cassa di Mezzogiorno, eccetera. Ma questo direi che è tutta una storia, secondo me, che è posteriore a De Gasperi. Non c'è dubbio. Questo era un po' i due punti. Darf ich vielleicht gerade übersetzen? Zunächst in einem längeren Beitrag hat Herr Prodi auch aufgrund seiner eigenen Erinnerungen als 14-, 15-Jähriger gehörte er zu den Jungen, die von dem eben genannten Abgeordneten, späteren Priester und Mönch Dossetti geführt wurden, und er hat den von mir auch, ich hätte das viel stärker eingrenzen müssen, nicht von Herrn Aliberti benutzten Begriff des Integralismus für Dossetti zurückgewiesen und gesagt, gerade Dossetti lehrte uns ja die Trennung, die autonomen Bereiche von Wirtschaft, von Politik, vom Kirchlichen, und das ist der Gegensatz zum Integralistischen hin. Wir lasen Maritain, wir lassen Mounier, wir lassen Croce, wir lassen Gramsci, wir lassen Jemolo. Jemolo ist den Deutschen vielleicht nicht bekannt, das ist ein bedeutender italienischer Rechtshistoriker, der das grundlegende Buch über Staat und Kirche in Italien im 19. und 20. Jahrhundert geschrieben hat. Ich glaube, wir wollen den Punkt Dossetti jetzt nicht vertiefen, denn er führt tatsächlich von dem Thema, das Herr Aliberti aufgeworfen hat, sehr ab. Vielleicht, Herr Prodi, können wir uns darüber selbst einmal unterhalten. Ich dachte hier an den Briefwechsel De Gasperi Dossetti, der in der Auswahl, in den Auswahlbänden dieser zweibändigen De Gasperi Briefausgabe enthalten ist, und von daher hatte ich das gemeint, aber ich glaube, das ist hier nicht das Entscheidende. Das Zweite, was Herr Prodi sagt, der Niedergang, und das stimmt er aber mit dem, was Herr Aliberti gesagt hat, völlig überein. Es darf nicht der Eindruck entstehen, als ob der Niedergang De Gasperis, also De Gasperi hat ja kurz vor seinem Tode eine, ist er als, hat er als Politiker ja ist er scheiterns zurückgetreten, dass der Niedergang nicht auf die Gruppe Dossetti zurückzuführen ist, das hat der Aliberti auch nicht behauptet. Es ist nur für die Deutschen wichtig, dass sie sich das vor Augen halten. Der zweite Punkt, er sagt, Confindustria 1950 und 1979 sind sehr verschiedene Dinge. Damals wird die Confindustria beherrscht von den großen Monopolen, Montecatini, Edison und so fort und macht für, versucht, deren Politik zu machen. Heute ist eine ganz andere Situation. Die deutschen Teilnehmer wissen, dass es eine ganze Reihe von Staatsbetrieben, von Betrieben in staatlicher Hand gibt, die Enti Statali, die heute in der italienischen Wirtschaft eine enorme Rolle spielen, übrigens aber teilweise ja auch damals schon eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel das Bankwesen in Italien ist ja im Unterschied zum deutschen Bankwesen weitgehend verstaatlicht. Ebbene, io devo dire questo, che per quanto riguarda Dossetti, io sono d'accordo, nel senso che il dossettismo non è un elemento della DC, ma non è assolutamente tutta la DC. C'è un dossettismo di carattere appunto propriamente, proprio c'è l'incidenza, l'influenza, la validità, lo spessore proprio culturale del dossettismo, credo che non entri, non può essere assolutamente compreso totalmente nell'esperienza della Democrazia Cristiana degli anni dei Gasperiani. Su questo non credo che ci siano, possano essere problemi. C'è il dossettismo come ripensamento della tradizione spirituale, religiosa, del cattolicesimo italiano, che è indubbiamente in una chiave di proprio metafisica, ma nel senso positivo della parola, non nel senso negativo, cioè proprio un'esperienza mistica, direi quasi, comunque religiosa, profondamente religiosa, e si lega strettamente, a mio modesto avviso, all'esperienza religiosa della Fuci degli anni del fascismo, del movimento cattolico di quel tempo, insomma, dove c'è il recupero su un piano metastorico, su un piano puramente proprio così, escatologico addirittura, salvifico, non so come dire, ecco, di una serie di filoni di esperienze del cattolicesimo italiano. Poi, e su questo non c'è problema, insomma. Poi c'è il dossettismo che diventa invece azione politica. E il dossettismo che diventa azione politica non solo evidentemente è un dossettismo che impatta con controforze che si collocano nello stesso ambito sociale del dossettismo. Io non so, tanto per fare, è un po' antipatico fare nomi, ma bisogna pure farli. Sembra l'esperienza spirituale di Dossetti e La Pira degli anni 38, 39, 40, io non so se, per esempio, Fanfani, ecco, abbia partecipato realmente a questa esperienza religiosa. Insomma, Moro credo di sì, ma non so Fanfani, per esempio. Però non c'è dubbio che del dossettismo democristiano, cioè nell'esperienza dossettiana nella DC, certamente Fanfani è un elemento importante, almeno fino a Venezia, è certamente un elemento di riferimento. Quindi il dossettismo, quando entra, diventa azione politica, è chiaro che perde, non può non perdere questi aspetti di ricerca, chiamiamola così, puramente religiosa e sociale. Diventa invece azione politica, e nell'attimo che diventa azione politica compie scelte che non sono più, e non possono essere più scelte di carattere oltremondano o di carattere metafisico, sono scelte concrete e immediate. È su questo piano che matura, a mio modesto avviso, il populismo di Cronache Sociali. Io non parlerei di Dossetti, parlerei a questo punto di Cronache Sociali, dove il Keynes e certe esperienze keynesiane dello Stato assistenziale, del welfare state in quel caso là, sono esperienze che non solo che maturano, però vengono rivissute proprio all'insegna, secondo me, di una insufficiente separazione di questi due momenti il momento puramente religioso, il momento della testimonianza religiosa, interiore, spirituale, dal momento della scelta politica. Ed è da questa commistione che vengono fuori proposte, vengono fuori suggerimenti che sono, a mio giudizio, piuttosto discutibili da un punto di vista proprio della tecnica economica. Se noi scordiamo cronache sociali, noi abbiamo un economista che poi diventerà un giusto economista, che è Federico Caffè. Ma Federico Caffè, posso sbagliare, ma non mi pare che mai che Federico Caffè abbia interpretato la politica economica di cronache sociali. Interveniva su alcuni provvedimenti precisi. Ecco, viceversa invece era il Fanfani. Noi ricordiamo quell'articolo di cronaca sociale, cronaca di una crisi o una cosa del genere, apparso a firma di Fanfani su cronaca sociale dopo il 49-50, in cui Fanfani traccia lui il programma. La proposta politica, anzi la proposta economica questa volta, di cronache sociali non è che la formulava Caffè, non lo so se la formulasse Lombardini, in realtà la formulava Fanfani, maître à penser del gruppo di cronache sociali dal punto di vista economico, e la formulava come fatto politico lo stesso Labile, non Dossetti, che credo che avesse più attenzione ai problemi delle istituzioni. Quindi io sono d'accordo, nel senso cioè che il dossettismo va tenuto presente, secondo me, questi due aspetti, rilevabilissimi a livello filologico, perché bisogna pur fare queste cose, in quella bellissima lettera che Dossetti scrive a De Gasperi dopo che ha preso gli ordini, che attualmente De Gasperi scrive, che è molto bella, dove appunto Dossetti credo che esprima veramente, libero ormai da questi condizionamenti politici eccetera, ecco, Dossetti dà veramente la misura del suo rapporto, e questo è molto bene. Però c'è poi il dossettismo, e il dossettismo è un grosso, a mio giudizio, cioè, presuppone un grosso discorso che non è il caso di fare. Io direi questo: il dossettismo come corrente, come cronache sociali, come corrente, come gruppo, diremmo militante interno alla DC, gioca tutto su Stato, partito e società. Ecco, questi sono i tre termini. Nella scomposizione e ricomposizione di questi tre elementi noi troviamo tutto il dossettismo. Lo dicevo ieri, lo accennavo, secondo me, a differenza di De Gasperi, per il quale i partiti sono un punto di strumenti di raccolta del consenso sociale, però e strumenti di indicazione di scelte politiche generali, e tuttavia però sono le istituzioni pubbliche, Parlamento, gli organi amministrativi preposti all'esecuzione e all'attuazione di queste scelte, direi quasi in una forma, non dico di autonomia, ma direi, e nemmeno di neutralità, però diremmo così, di responsabilità propria. Io, Presidente del Consiglio, attuo il mio programma, non il programma del partito, anche se fra il mio programma e quello del partito c'è consonanza, c'è una distinzione precisa. Mentre in Dossetti, non a caso, io dicevo che con cronache sociali abbiamo il partito di massa, come intendeva il Bendiscioli ieri, cioè il partito di massa nel senso, cioè come partito che viene fuori da un'esperienza operaia, insomma. Il dossettiano ha tutto il contrario, lo Stato va occupato in senso buono, cioè lo Stato è lo strumento di riforma della società. Quindi il partito occupa, cioè guida lo Stato, usa degli strumenti dell'azione pubblica, delle pubbliche istituzioni, in un rapporto di modifica con la società, ma è il partito. E sulla concezione dei rapporti partito-governo, in realtà, che c'è, secondo me, la frattura netta fra Dossetti e De Gasperi, su questo non c'è dubbio. Ora, da questo punto di vista, c'è chi dice giustamente che i dossettiani sono integralisti. E quando si parla di questo integralismo si intende proprio in questo senso qua, non integralismo nel senso così teologico o nel senso di una totalità religiosa, no, l'integralismo significa nel senso quale può essere al limite integralista l'esperienza comunista, cioè il partito che diventa esso stesso, diremmo così, che si sovrappone alle istituzioni politiche, alle istituzioni pubbliche e le guida verso certi fini. E questo è il concetto di partito e di integralismo in Dossetti, cioè quindi è un concetto tutto politico, non è un concetto metafisico. Altra cosa poi sono queste strane commistioni tra Vangelo e Keynes, questo uso, a mio giudizio, un po' appunto così strumentale che fanno questi di Keynes, ed è sintomatico come Sturzo. E Sturzo conosceva bene voi Cristo, voi il Vangelo, dico voi Keynes. Quindi dicono, non era un addetto ai lavori da questo punto di vista. Nessuno potrà, credo io, dubitare dell'attaccamento di Sturzo a certe tradizioni popolari del Partito dei Cattolici. Eppure Sturzo, bisogna leggere quegli scritti di Sturzo, le battaglie per la libertà, quando lui ironizza sulla pira, cioè il fatto che ricorre sempre alla Madonna, ma dico, ma questi sono altri problemi, dice Sturzo, qua abbiamo ben altri problemi da risolvere, noi possiamo risolvere con l'afflato alla Madonna, quello è un fatto importante, ma dico, ma non c'entra niente, bisognerebbe rileggerle quelle pagine di Sturzo, e Sturzo polemizza. E polemizza pure con De Gasperi, vediamoci bene, Sturzo a un certo momento è chiaramente la coscienza critica della Democrazia Cristiana dei Gasperiani. Ecco, e non è mica detto, e qua va chiarito secondo me, e non è affatto vero che Sturzo difende posizioni precostituite, non è vero, Sturzo è un profeta, leggersi quegli scritti, le profezie di Sturzo. Sturzo ha previsto lo stato assistenziale nel senso di cui diceva Prodi, Sturzo ha previsto l'occupazione, la borghesia di Stato, Sturzo ha previsto la mancanza, la graduale mancanza di libertà, Sturzo ha previsto da questo punto di vista, con un tono a mio giudizio, ripeto, profetico, nel senso naturalmente laico del termine, ha previsto alcuni aspetti. E perché li ha previsti? Perché Sturzo la crisi del 39 l'ha vissuta lì, l'ha vissuta in Inghilterra, l'ha vissuta in Francia, poi l'ha vissuta negli Stati Uniti, cioè l'ha vissuta nel cuore del capitalismo industriale. Keynes non era un libro per Sturzo, era un'esperienza che Sturzo aveva fatto in concreto. Non mi risulta, perché poniamo il caso, che l'ottimo Mariano Rumor o l'egregio Fanfani avessero fatto questi. Keynes arrivava sull'onda così di un dibattito ideologico, di un dibattito teorico. Sturzo queste cose le aveva vissute, e questo spesso lo si dimentica e si confonde, devo dire, anche con colpa di Sturzo che si è fatto coinvolgere, Sturzo in una difesa di interessi precostituiti, Sturzo che difende la Confindustria, Sturzo che difende la Confagricoltura, nemmeno per sogno. Non è, cioè voglio dire, anche se poi finiva per trovarsi su certe posizioni, ma Sturzo viceversa faceva una battaglia ben diversa, su cui credo che forse proprio gli studiosi del movimento cattolico di quel tempo dovrebbero soffermarsi. Io è con grande perplessità che, leggendo queste opere così dotte di politica economica, eccetera, anche secondo me non trovo citato Sturzo. Non esiste. Il contrasto violento che oppone comunisti e democristiani in quell'epoca non se ne parla. Dico, a questo punto mi sono chiesto se appunto io stavo leggendo opere di storia oppure altre cose, magari, ripeto, più importanti, certamente, però che non avevo niente a che fare. Il discorso quindi era diverso. Questo per quanto riguarda il dossettismo. Il discorso si ricollega anche qua per quanto riguarda il problema della Confindustria, e questo è esatto. Infatti io cito questo telegramma di Faina e Giustiniani, appunto Montecatini e Edison, che fanno questo telegramma, mandano questo telegramma a De Gasperi, che è citato proprio in nota integralmente, in cui non vogliono una politica liberista. Dico, il protezionismo italiano, sto estremizzando, lo hanno inventato gli industriali, non è che lo ha inventato, lo statalismo italiano, sia pure come condizione storica fondamentale per lo sviluppo dell'intera Italia, non ha mica inventato, dico, il neostatalismo Vanò, l'hanno inventato, dico, gli industriali del nord. E il liberismo da questo punto di vista è una concezione politica ed economica che si oppone violentemente. La battaglia liberistica dell'età giolittiana non è assolutamente qualcosa che è finito. Tra la battaglia liberistica dell'età giolittiana e direi ancora dei primi anni del fascismo e gli anni della ricostruzione del cedismo sono passati appena 20-25 anni, non è che sono passati un secolo. E allora il liberismo che per esempio ne dica, per esempio Scoppola, è il caso di dirlo nella famosa proposta politica. Ma non è affatto vero che è la formula del capitalismo, al contrario, o meglio, è una formula sì del capitalismo, ma una formula innovatrice, vuole rompere il rapporto fra Stato e grande industria, vuole riformare questo. saranno utopisti, cioè sono limitati nella politica economica concreta, e chi lo mette in dubbio, ma hanno una carica riformatrice altro che conservazione, insomma. Ecco, è in questo senso che va guardato. Faini e Giustiniani, certo, però accanto a Faini e Giustiniani c'era tutto un settore, e in primo luogo direi c'è il settore dell'industria pubblica, non solo peraltro, ma c'è comunque il settore dell'industria meccanica. Dico, la Fiat degli anni 50, certo che col movimento sindacale faceva quello che faceva, però la Fiat degli anni 50 dà una spinta violentissima agli interessi protezionistici di Faini e di Giustiniani. Ecco. Einaudi, la stessa cosa. Einaudi, ma chi ha detto mai che Einaudi era contro l'intervento dello Stato? Einaudi, con la politica di restrizione creditizia del 47, lo dice la Malfa perfino, che pure non approvò in tutto la politica di Einaudi. La Malfa ha detto una stretta a chi? Al mercato, alla speculazione creditizia, cioè ai capitalisti. La politica antinflazionistica del 47 è stata una politica che ha messo in difficoltà, in primo luogo, le banche, gli interessi bancari. Allora, ecco diremmo così, il problema, come dicevamo l'altro giorno, io quando l'altro giorno parlavo e Prodi interveniva, io non parlavo così, parlavo perché sapevo, ecco, quando io dico bisogna realmente che su questo periodo ci intendiamo, se noi vogliamo fare la storia o vogliamo fare altre cose. Se vogliamo fare altre cose, allora tutto è possibile, possiamo dare le proposte, i programmi, tutto quello che vogliamo. Se però vogliamo occuparci con molta modestia e umiltà di guardare le cose in questo senso storico, e l'ultima cosa che concludo, il latifondo e la politica agraria. E qua sono d'accordo perfettamente con Prodi, ci sono cose che io non ho letto per rispetto al tempo, ma nel testo della mia relazione ci sono sia questi accenni al capitalismo assistito, sia questi accenni alla riforma agraria, insomma. Per esempio, non c'è dubbio, la riforma agraria nasce con un forte c'è un contrasto di classe. Parliamoci chiaro, questa è la verità. Io cito una relazione del presidente della Confagricoltura, inedita anch'essa, Dino Di No di Miglione, proposte per la riforma fondiaria, ecco qua, riforma fondiaria, osservazioni e proposte, sta sempre nell'archivio della segreteria De Gasperi, ampiamente consultabile da tutti, all'archivio centrale dello Stato, io non ho fonti misteriose, andiamoci bene. Ecco. C'è una lunga memoria di Rodinò di Miglione, in cui lui dice, ma noi lui respinge la riforma agraria nel progetto fatto da Segni. C'è una polemica violentissima fra Rodinò di Miglione e Segni da questo punto di vista. E Segni, e c'è tutta una cosa magari anche interessante. Lui scrive una lettera, manda questo progetto di riforma, è il progetto di riforma della Confagricoltura, cioè bonifica, non riforma. Era questo quello che loro volevano, cioè volevano, come io dico nella mia relazione, una riforma produttivistica del latifondo. Il latifondo non è soltanto qualche cosa da eliminare, bisogna solo razionalizzarlo attraverso opportuni contributi per opere di miglioria, contributi dei proprietari naturalmente, attraverso forme opportune di bonifica parziale o integrale, e questa è la proposta della Confindustria. Di fronte a questa violenta della Confagricoltura, chiedo scusa. Di fronte a questa, poi c'è una lettera, questo promemoria viene inviato con una lettera violentissima, cioè dura, violentissima in questo senso, di Miglione a De Gasperi contro Segni. De Gasperi scrive a sé, c'è un appunto di De Gasperi. È vero che tu a Napoli hai fatto un discorso in cui hai detto che vuoi espropriare, vuoi togliere la proprietà, vuoi fare queste cose? Risposta di Segni, riconfermo pienamente il testo del mio discorso a Napoli, bisogna riformare la terra, dobbiamo distribuire la proprietà, eccetera, eccetera. Replica dura, un telegramma di De Gasperi a Rodinò di Miglione, durissimo, in cui De Gasperi si schiera perfettamente con Segni. Che significa tutto ciò? La riforma agraria nasce in realtà come sulla base di un accordo tra forze cattoliche e forze di sinistra, l'ha detto. La sinistra però è contraddittoria. Da un lato è la politica del doppio binario, che non è una cosa che ci siamo inventata, che sono inventate i liberali. No, dico, basta leggere la logistica del tempo. Da un lato, a livello parlamentare, i comunisti danno contributi migliorativi ai provvedimenti di riforma agraria. intervengono in discussioni, fanno emendamenti, eccetera. Dall'altro lato sostengono chiaramente, c'è un articolo di Grieco, per esempio, di quel tempo, che loro si devono battere contro tutta la proprietà fondiaria, per cui il latifondo viene considerato dai comunisti come la prima misura per forme crescenti di collettivizzazione della terra, contro con un intento chiaramente punitivo nei confronti di tutta la grande proprietà, è testuale, latifondistica o capitalistica, industriale o arretrata che sia, sono parole testuali di Ruggero Grieco. Quindi c'è un atteggiamento anche massimalistico e agitatorio. Ora, lì è una cosa, è un fatto importante, lì si va allo scontro di classe. Lì si va allo scontro di classe, chiari, proprio netti, da un lato i contadini, o meglio i partiti che lo rappresentano, dall'altro c'è lo scontro di classe. Nel nostro mezzogiorno già c'è stato questo e si è sempre risolto con forme involutive del processo politico. La riforma agraria, specifico, la solidità politica del quadro emerso dal 18 aprile blocca tutto ciò, impedisce questo, si fa la riforma, che però non è una riforma economica. Io ho tanto rispetto per uno dei miei maestri, che è Mario Rossidori, dico per dire, tutti noi, e altri studiosi, economisti, graziani che hanno studiato. Però la riforma agraria, per intenderla storicamente, se la vogliamo interpretare come riforma economica, non la capiremo mai. È una riforma sociale, come la previdenza, come la è la prima delle leggi quadro sociali che poi verranno attuate alla fine, all'inizio degli anni 60. È una riforma puramente sociale, dove privare un'ideologia, l'amico Prodi me lo dovrà consentire, cattolica, prevale la microeconomia contadina, prevale il piccolo, prevale cioè un tipo di scelta di politica economica chiaramente inadeguata agli sviluppi dell'agricoltura e agli sviluppi dell'economia italiana. Questo va detto pure con chiarezza. Poi ne riparliamo, perché sono cose, poi dico, giustamente il Bongo e Corsini mi richiama all'ordine. Per poter lasciare che intervengano. Es ist nun wirklich nicht sehr leicht, die Diskussion zwischen Herrn Prodi und Herrn Aliberti, vor allen Dingen auch in den Hintergründen, die dahinter stecken und die beiden ganz genau kennen wir Deutschen, aber weniger kennen, richtig zu übersetzen. Ich will versuchen, es ganz kurz zusammenzufassen. Das eine ist, dass jetzt in seinem Statement Herr Aliberti viel stärker als in dem, was er im Referat vorgetragen hat, nicht Dossetti selbst, aber den Dossettismus als eine politische Kraft bezeichnet, also eine politische Bewegung bezeichnet, eine Denkhaltung, die man nicht so scharf vom Integralismus trennen könnte, wie es Herr Prodi getan hat. Er sagt, sie haben eben eine andere Konzeption als De Gasperi. De Gasperi hat die Konzeption, es gibt den Staat und es gibt die Gesellschaft. È un concetto politico. Come er non meint è un concetto. Nicht, Herr Prodi hat von einem religiösen Integralismus gesprochen. Er spricht von einem politischen Integralismus. Das heißt also von einer Analogie oder einer Übertragung von Dingen, von Verhältnissen und Beziehungsgefügen aus dem religiösen Bereich ins politische. Und daher sagt er, für mich ist Dossettismus ein Dreieck Staat, Partei und Gesellschaft, und das ist nicht das Beziehungsgefüge De Gasperi. De Gasperi, Staat hier, Gesellschaft dort, Dossettismus da. Dies nur ganz kurz, wir können, es hat ja keinen Sinn, dass ich das nun alles im Einzelnen wörtlich übersetze, ich habe es mir auch natürlich nicht alles aufgeschrieben. Das Zweite aber, was nicht direkt damit zusammenhängt, aber an die Diskussionen des ersten Tages und vermutlich schon an die Diskussionen von übermorgen, von Freitag anknüpft. Er sagt, warum wird von der Zeitgeschichtsforschung, werden gewisse Dinge in der Geschichte der Demokratia Christiana völlig ausgespart? Wo ist die Beschäftigung mit dem aus dem Exil zurückgekehrten Don Sturzo und seinen Schriften, die teilweise sehr kritisch sind. Es wird wohl gesprochen von dem Versuchsturzus 52 bei den Administrationswahlen, einen neben der Demokratia Christiana einen anderen antikommunistischen Block zu bringen, aber er sagt hier darüber, damit das würde ausgespart, die heftige Kritik, die Don Sturzo etwa an La Pira, dem Oberbürgermeister von Florenz, geübt hat, indem er sagt, es geht um konkrete Entscheidungen und hier können wir nicht mit Mariologie begegnen. Dann noch einmal zur Agrarreform. Und da hat er ganz scharf unterstrichen, dass Agrarreform, wie sie konkret durchgeführt wurde, nicht eine Veränderung von Wirtschaft war, sondern als eine Sozialreform, als eine Sozialreform geplant und durchgeführt wurde. Unter wirtschaftlichem Aspekt hätte man nicht eine solche Dinge einleiten sollen, weil sie unwirtschaftlich waren. Sie wurden aber eingeführt unter sozialem Aspekt, unter bestimmten gesellschaftspolitischen Bedingungen, die man verändern wollte, und hat das dann auch wieder in der Auseinandersetzung und Streitigkeiten zwischen Agrarreform, Segni, De Gasperi, hat einige Quellen hier genannt, die wir aber im Einzelnen nicht bringen wollen, nur dies zum Stand der Diskussion, wobei wir hier wieder, das merken die deutschen Teilnehmer wahrscheinlich sehr gut, wir sind hier in ganz aktuellen, in sehr aktuellen geistigen und zugleich politischen Kontroversen der italienischen Gegenwart, die natürlich mit der Zeitgeschichte, die sich von der Zeitgeschichte nicht chemisch rein trennen lassen. Ci sono anche Sie auch gemeldet. No, io volevo soltanto fare un'osservazione, cioè a me è sembrato alla relazione fatta con il professor Riperti che in sostanza mancasse a De Gasperi, no? Quella, perché De Gasperi fosse in sostanza estraneo alla realtà meridionale e che quindi gli mancasse veramente, oltre che una, diciamo, una conoscenza diretta, ma anche quella che era una, così, un piano, una proposta politica concreta su quelle che fossero, dovessero essere le soluzioni ai bisogni di tutte le gente di Iran. E vorrei ricordare a questo proposito che in questa istanità dell'uomo a certi problemi, per tanti così, sembra che fosse in un stesso tempo ricambiata dalle genti meridionali stesse. E cioè vorrei ricordare a questo proposito il fatto che un po' il declino politico di De Gasperi si è incominciato proprio in un famoso viaggio nel sud di Calabria, dove appunto a Reggio Calabria ci fu una grande manifestazione, diciamo, contro, e dove fu lungamente fischiato e lui tornò poi, diciamo, sconvolto qui a Roma, eccetera, eccetera. E proprio il declino politico, se vogliamo, di De Gasperi incominciò proprio allora. Quindi in sostanza volevo appunto dire che se effettivamente questa estraneità dell'uomo ha un certo tipo di problemi, poi si è estrinsecata appunto. Chiedo scusa, ma questa sanità lo dice lei, che io non lo dico. Cioè, no, lei non lo dico, però a me è sembrato. No, sto dicendo. È sembrato dal tipo di politica, dal tipo. Ah, ok, ho avuto questa impressione, ho capito. Tipo di politica, ho avuto questa impressione. Ho capito. Si potesse ridurre. Ho capito. Io ho detto perlomeno questo. Ho capito. Er sagt, das Referat habe eine gewisse Schwäche gehabt, denn De Gasperi sei darin eigentlich nicht vorgekommen und das sei zwar insofern richtig, als De Gasperi vom Süden nichts verstanden habe. Er sei fern davon gewesen und der Niedergang De Gasperis habe auch in Kalabrien im Süden begonnen. Wenn ich es ganz kurz zusammenfassen darf, Herr De Rosera, ich habe aber da eine Frage an Sie. Soweit ich weiß, war Schelba noch einer der engsten politischen Freunde De Gasperis, dem kann man aber doch eine gewisse Kenntnis des Mezzogiorno nicht vorweghalten, nicht? Ma non fu responsabile per la casa del Mezzogiorno. No, ma non era il fatto di essere più o meno responsabile, ma in sostanza io volevo mettere in rilievo questo, cioè che ci fu in sostanza una mutua incomprensione da una parte alla. Es war Er sagt, es war im Wesentlichen sowohl von Seiten der Gasperis wie auch von Seiten des Südens, des Mezzogiorno, ein wechselseitiges Unmöglichkeit, sich verstehen zu können, sich einander verstehen zu können. È molto semplice. Lei mi consentirà di essere telegrafico proprio perché non desidero sottrarre tempo. Direi così. Manca su De Gasperi uno studio sulla funzione di un leader in una democrazia in trasformazione. Punto primo. La gravissima lacuna che sarebbe invece opportuno colmare al più presto da parte di chi si occupa professionalmente di questo. Due. Non è vero che De Gasperi non gestisca la politica economica. Certamente egli aveva Ferrari Agrari, aveva una serie di tecnici, ma la politica economica appartenne a De Gasperi come gli appartenne la politica estera, come gli appartenne la politica interna. Nel senso che da politico egli faceva le scelte e le faceva bene. Il fatto che poi si servisse di tecnici, questo è un discorso, e De Gasperi c'è una testimonianza inedita in materia, diceva sempre i tecnici non servono a niente, perché lei troverà sempre 10 tecnici che dicono A e 10 tecnici che dicono B. Io scelgo, egli scelse, e scelse lui, il che già smentisce certi luoghi comuni del tempo, cui De Gasperi dice questo non ne capisce niente di politica economica, la facciamo fare alla Confindustria, nemmeno per soldi. Scusi se sono così apodittico. Terzo, non è vero che De Gasperi non avesse, c'è una lettera di De Gasperi a Sturzo molto bella, la famosa lettera della gamba, in cui De Gasperi qui a Serra di Valsugana, che c'ha sta gamba che non gli funziona, e scrive a più riprese, c'è una cosa bellissima sul Mezzogiorno. Non, io cerco di citare a mente, non tutta la borghesia agraria meridionale è come il De Martino, Carmine, il nostro compaesano, cioè una imprenditoria illuminata. La maggior parte sono parassiti e cose di questo genere, quindi, il che significa che De Gasperi aveva intuito e capito queste cose. Scusi, No. Scusi, lo dice proprio De Gasperi questo. De Gasperi dice, cioè, non, quando Sturzo gli fa delle accuse, dice tu stai facendo un progetto di riforma agraria, secondo me, dice De Gasperi, troppo influenzato dai marxisti. Tu non devi scordare, in effetti, da questo punto di vista, ecco, al limite c'è più integralismo in Sturzo, in questo senso qua, che in Dossetti, perché l'integralismo non è altro che la teoria del partito moderno, questo è l'integralismo di Dossetti. E dice Sturzo, De Gasperi risponde, nemmeno per sogno, perché nel Mezzogiorno ci sono situazioni, diremmo così, di arretratezza che vanno smosse. De Martino, che faceva la Vespa, gli faceva la corrente conto, De Martino, dice lui, è un imprenditore, dice anche la verità per molti aspetti, è un imprenditore illuminato, cioè un uomo che dal niente attraverso l'agricoltura si è costituito una posizione. Però non tutti sono come De Martino. Ecco, quindi aveva questa sensazione, voglio dire, aveva questo. Certamente è logico che De Gasperi, ma De Gasperi credo che nemmeno per il suo Trentino fu passionale o partecipò in modo passionale a queste cose. Mai, no. Cioè De Gasperi articoli populistici sulle condizioni lacrimevoli del Mezzogiorno non ne faceva, un po' perché forse non li sapeva fare, ma anche se poteva non li avrebbe fatti proprio nel suo stile. Ripeto, secondo me il segreto di capire queste cose va in uno studio che forse la scuola tedesca ci potrebbe dare, ecco, sulla funzione di un leader, la leadership in una democrazia in trasformazione, un tema che mi permette di offrire al collega Monticone, se lo accetta, insomma. Perché è importante, perché se non si capisce questo, non si capisce niente. Così oggi capiamo anche perché De Gasperi nel 52 comincia piano piano ad aprire alla sinistra interna, si sposta lentamente verso posizioni certamente diverse da quelle assunte nel 48. Ma spiacevolmente anche in Germania manca uno studio profondo su Adenauer come leader della democrazia cristiana. Questo è un libro che non esiste e che sarebbe importantissimo per capire Adenauer. Aliberti hat drei Dinge geantwortet, sehr kurz. Erstens, es gibt keine Untersuchung über De Gasperi als Führer, als Vorsitzender, als der Leader der Demokratia Christiana, und zum Schluss hat er gesagt, er hoffe, dass Herr Monticone dieses Buch schreibt. La Demokratia Italiana, un Leader di una Demokratia in Trasformazione. Ich meine mit Demokratia Christiana die italienische, die CIT. Das Zweite, natürlich ist de Gasperi kein Nationalökonom gewesen, aber ebenso wie er in den außen- und innenpolitisch wesentlichen Fragen selbst entschieden hat, so hat er das auch in der Wirtschaftspolitik gemacht. Natürlich hat er 10 Experten gefragt und die haben ihm A gesagt, und er hat 10 andere Experten gefragt und die haben ihm mit B geantwortet, wobei er hier mit B wohl logisch non A meint, nämlich genau das Gegenteil. Und dann hat er selbst entschieden, genauso wie er in anderen Punkten entscheiden musste. Und das Dritte, er hält die Meinung, die Serra geäußert hatte, dass de Gasperi eigentlich vom Süden gar nichts verstanden habe, dass er gar keine Verständnismöglichkeit dafür gehabt habe. Diese Meinung hält der Aliberti für irrig und verweist hier auf einen berühmten Briefwechsel zwischen de Gasperi und Sturzo, in dem de Gasperi sehr wohl die Situation des Südens und auch die Gefahren einer, wenn diese Situation nicht verändert wird, in Bezug auf seine Politik genau beschrieben haben. Jetzt war die nächste Wortmeldung von Herrn Hockerts und dann von ihm, dann von Herrn Pastorelli. Bitte schön. Ja, ich will nur kurz, weil wir ja einen vergleichenden Ansatz hier haben, betonen, wie wenig die deutsch-italienischen Verhältnisse in dieser Beziehung vergleichbar sind, weil erstens ein so ausgeprägter regionaler Unterschied wie das italienische Nord-Süd-Gefälle in Deutschland nicht besteht und weil zweitens auch die Notwendigkeit einer Agrarreform so nicht bestanden hat. Denn der Großgrundbesitz war nicht im Gebiet der drei Westzonen, im Gebiet der späteren Bundesrepublik, sondern der blieb in Ostdeutschland, im Gebiet der späteren DDR und wurde dort radikal enteignet. Die Bundesrepublik war von diesem schweren traditionellen Sozialkonflikt, der Spannung zwischen ostelbischem Großgrundbesitz und der Bauern- und Familienwirtschaft, von vornherein entlastet, sodass von daher eine Agrarreform nicht notwendig war. Ein Problem, mit dem Italien sich so ernst befassen musste, von diesem Problem war die Bundesrepublik entlastet, hat es leichter. Ein letzter Punkt, wenn schon nicht eine regionale Verarmung festzustellen ist in der Bundesrepublik, so könnte man fragen, ob nicht durch den Einstrom von 10 Millionen völlig verarmten Flüchtlingen und Vertriebenen eine verarmte Schicht festzustellen ist, die vielleicht vergleichbar sei mit dem Risotto. Noch da muss man antworten, nein, denn die Mentalität dieser 10 Millionen völlig proletarisierten Menschen war ganz anders als die der Süditaliener, nämlich ein fanatischer Arbeitswille, ein fanatischer Wiederaufbauwille, der nicht zuletzt zu dem rasanten Wirtschaftsaufstieg beigetrieben hat, weil diese Leute mit nichts anderem kamen, als mit dem Willen, sich anzustrengen. Also auch von daher ist keine Vergleichbarkeit gegeben. Ein mageres Ergebnis, aber ein meines Erachtens richtiges Ergebnis des Vergleichs. Capito, Gianluca? Grosso modo, se lo traduce mi fa un piacere, che non vorrei aver capito anche parlare veloce. Dice che siamo in un convegno italo-tedesco e vogliamo comparare, ma in quel problema del sud, del mezzogiorno, non esiste, secondo Hockert, una comparabilità fra Italia e Germania. Anche l'ho capito bene. Perché? In Germania, prima Germania federale, non esistono differenze come in Italia del Sud e Italia del Nord nel campo economico sociale. Secondo, in Germania federale non la Germania federale non aveva la necessità di fare una riforma agraria perché le regioni tedesche con i latifundi furono nel Germania di l'est e non sono sul soglio della Germania federale e perché e perciò la nostra storia della seconda dopoguerra non aveva uno dei grandi problemi del Novecento, del nostro secolo, di tutta la politica agraria. E il terzo, fa la domanda se quel ceto dei profughi, 10 milioni profughi nella Germania federale, è stato un ceto comparabile nella sua totale proletarizzazione, comparabile a quella, e dice di no, perché sono stati quei profughi che sono profondamente responsabili per il cosiddetto mistero economico, perché venivano con un fanatismo di lavoro, di voler lavorare e di voler incrostarsi nella società della Germania federale, e questo lui dice è una delle cause del rapidissimo mistero economico degli anni 29, 50, 51, eccetera, eccetera. Io non ho niente da aggiungere se non una sola cosa. La storia comparata, almeno la storia contemporanea, non è possibile farla se non a livello di istituzioni o di strutture sociali definite da modelli. Ogni comparabilità tra i contenuti delle esperienze dei singoli stati non sono comparabili, quindi sono d'accordo con quello che dici. Altra cosa viceversa è il discorso sulle istituzioni, che invece là c'è da poter fare la possibilità di una storia comparata. Quindi non ho molto da aggiungere, insomma, d'accordo. Er sagt, dass er im Allgemeinen völlig einverstanden sei, und er sagt, es geht nicht nur um die Institutionen, sondern es geht auch um die Strukturen, ist aber völlig mit Ihnen der Meinung, dass in diesem Punkt ein Vergleich nichts bringt, weil die Dinge unterschiedlich sind. Sie kommen auch, aber sind ja trotzdem, aber es ist wohl richtig. Jetzt bitte schön. Il protagonista del economico del periodo cartelliano, e quello dico il nome perché essendo noto per il professor Boccardi, dice che è un'altra persona di morto d'occasione, come il suo amico, diceva appunto, affermava che in effetti nel periodo cartelliano è mancata una politica economica. Lo Stato italiano non ha una politica, questo in base al fatto che mancava chiaramente la concezione del modello di sviluppo cui doveva uniformarsi in un certo senso l'organizzazione economica dello Stato. Al massimo si aveva un modello di crescita, non certamente un modello di sviluppo. E il problema anche posto dal relatore tra statalismo e liberismo, diciamo, per conto mio si colloca in questa visione, la sua conclusione in un certo senso si colloca in questa visione, proprio perché nell'ambito dell'organizzazione, del modello statalista, in effetti vivevano due anime, quella tedesca se vogliamo, cioè che in Italia insomma aveva già avuto la seconda metà dell'Ottocento una sua segregazione, la via prussiana, se vogliamo, e quella invece di carattere così più moderna che veniva fuori dalle occidentali o da Keynes stesso. E nell'ambiente liberista naturalmente il discorso era duplice, c'è chi vedeva ancora da fare la rivoluzione industriale in Italia, quindi in un certo senso di porre per la prima volta il problema dello sviluppo autonomo, e di chi invece riteneva di dover dipendere dal mercato internazionale in termini speculativi, in termini di organizzazione del mercato, diciamo così, subordinato, ma cogliendone gli aspetti. E per questa ragione credo che in effetti la lettura del movimento economico, delle scelte economiche, vada fatta forse fondamentalmente sul piano politico, nel senso che ci ha dato appunto il relatore proprio nei confronti della riforma agraria, ma io questo lo direi anche per esempio nei processi di industrializzazione, o se vogliamo di allargamento del processo di industrializzazione del nord, quando ha detto che la riforma agraria di fatto non era una riforma di tipo economico, ma di tipo sociale, meglio ancora di tipo politico, di consenso, di alleanze che dovevano instaurarsi per ottenere quei determinati risultati, non tanto come sviluppo dell'agricoltura, quanto come sviluppo della piccola proprietà contadina, cioè di quel ceto di piccoli contadini che erano in un certo senso la base su cui potevano. Anche nel nord per l'industria. Anche nel nord per l'industria. Anche nel nord per l'industria. Er hat zwei Dinge gesagt. Zunächst einmal, es habe in der Zeit, in der die Agrarreform und das Casa de Mezzogiorno-Dinge, die hier behandelt worden sind, zwar ein nationalökonomisches Modell des Wirtschaftswachstums, aber keine nationalökonomische Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung oder Entwicklungspolitik gegeben. Sodass die Unterschiede zwischen Statalisti und Liberalisti weniger wichtig gewesen seien als das. Und das Zweite, die Entscheidungen für oder gegen das eine oder das andere seien politische Entscheidungen gewesen, aber nicht Entscheidungen, das hängt mit dem ersten zusammen, die sich auf eine konkrete sozialreformerische Strategie gestützt hätten. Beh, io anche qui non voglio dire, cioè non è, non so se posso. Coppola. Dicevo, sì, in effetti quello che dice lei nell'assenza di un modello di sviluppo come elemento unificatore, razionalizzato, eccetera, certamente non ci sta, in effetti arriviamo allo schema Vanoni, perché ci possa essere, che però la svolta neostatalista della politica economica de Gasperiana non implicasse essa stessa un tipo di scelta generale, questo non lo direi. In effetti la politica economica dell'età de Gasperiana, e dovremmo definirla pure questa età de Gasperiana prima o poi, ma lasciamo perdere, nella prima fase è una politica disorganica, è contraddittoria la ricostruzione. Lei ha da un lato il blocco dei salari, l'imponibile della manodopera, dico per dire, dall'altro lato c'ha misure di sostegno anche di carattere protezionistico, in definitiva, nonostante ci fossero i Corbino e i Del Vecchio, all'industria. Quindi però ecco il punto. Tutti questi problemi, io sono d'accordo con lei, l'avevo premesso, c'è una lettera di Tremelloni che è una lettera economica, ma io ho scelto un passo, non è più distinguibile dalla politica pura. In realtà è appunto da quel punto di vista che va interpretato. Da quel punto di vista lì non c'è dubbio che la politica economica italiana, dopo i provvedimenti di Einaudi del 47 e fino allo schema Vanoni, che in realtà poi non è altro che una proiezione teorica, tutto sommato, ecco, acquista una maggiore organicità, soprattutto acquista la coscienza di una riforma. E questo è il punto su cui mi pare che è importante insistere. Insomma. La politica, il 18 aprile 48, insomma, è stata un'esperienza riformatrice, non è stata un'esperienza né di blocco, né di congelamento, né di fronte contro fronte, non è stato niente di tutto ciò. È stato un tentativo di dar vita a una forma di politica economica proiettata, come io dico, sui problemi della struttura. Il difetto fu nell'organizzazione dello Stato, nella struttura amministrativa dello Stato. Ecco perché poi il piano Vanoni dà, come lei ben sa, tutte queste cose. Quindi sono d'accordo. Der Gegensatz, der Unterschied sei gar nicht so sehr groß zwischen dem, was gefragt wurde, was eingeworfen worden war und was seine Auffassung sei. Die Gasperis wirtschaftspolitische Entscheidungen am Anfang seien wie immer beim Wiederaufbau oder wie bei diesem Aufbau, und immer hat er nicht gesprochen, wie bei diesem Aufbau, seien sehr gegensätzlicher Natur gewesen, weil man Löcher stopfte, wie es gerade möglich war, dass man Problemlösungen fand für viele Einzelprobleme, die sich gar nicht in einem systematischen, in ein System einpassen lassen. Dass aber nach seiner Auffassung nach 1948, und deshalb wieder die Bedeutung der Wahlen mit ihren Folgen, dass 1948 der ernsthafte Versuch einer wirtschaftlichen Strukturreform, ein ernsthafter Versuch und ein im Allgemeinen geschlossenes Modell dieser, für diese Strukturreformpolitik versucht worden sei. Herr Pastorelli. Io non sono un tecnico di questi problemi e più ne leggo e meno mi si chiariscono le idee, quindi vorrei approfittare del professor Alberti un'esposizione così chiara e ampia per interrogarlo su un punto preciso che è il seguente. Gli esami non finiscono mai, diceva Di Filippo. Vorrei sapere da lui se a suo giudizio la politica economica De Gasperi ebbe una influenza sulla rottura con i comunisti nel maggio 47 e nel caso che la sua risposta su questo punto sia positiva desidererei sapere se, a suo giudizio, questa fu un'influenza determinante oppure no. Pastorelli sagt, er sei kein wirtschaftsgeschichtlicher oder nationalökonomischer Experte, sondern wolle hier etwas, würde die Gelegenheit benutzen, um hier etwas zu lernen und habe nur eine einzige, allerdings sehr konkrete Frage. Er wolle nämlich fragen, ob nach Auffassung von Herrn Ali und Kenntnis von Herrn Aliberti die Entscheidung de Gasperis, der im Mai 1947 mit den Kommunisten gebrochen hat, wegen der unterschiedlichen Auffassungen für die künftige Wirtschaftspolitik erfolgt sei, oder ob die Wirtschaftspolitik de Gasperis nach dem Bruch mit dem PGI und nicht wegen Unvereinbarkeit in der Wirtschaftspolitik zu erklären sei. Io risponderò al professor Pastorelli, che professoralmente mi interroga in materia. Ich habe nicht übersetzt, dass Herr Aliberti als Herr Pastorelli sagt, ich möchte eine Frage stellen, eine bescheidene Frage stellen seinerseits, wie es in akademischen Kreisen in Italien üblich ist, etwas scherzhaft sagte, man merkt hier einmal wieder, die Examen hören nie auf. In Italien müssen die Professoren, wenn sie einen Ruf bekommen, wenn sie habilitieren, immer an einem Concorso teilnehmen, bis ins hohe Alter, indem sie dann immer auf diese Weise examinieren. Meno male, ho fatto il concorso. Darauf spielt er hier an, das darf ich vielleicht sagen, weil es den deutschen Teilnehmern sonst nicht so läuft. Vi risponderò appunto all'amico Pastorelli dicendo questo, insomma. Nella storia contemporanea all'Histoire d'Avramansiel è forse importante per molti aspetti, però non è che può spiegare tutto. Quindi sul piano di una ricostruzione così, degli avvenimenti così specifici non è possibile, secondo me, dare e non sarà mai possibile dare una risposta netta. Che cosa ci sia stata alle basi della rottura, diciamo così, del terzo governo De Gasperi, quindi dello sbarco dei socialcomunisti, se sono anche motivi economici o sono motivi politici o sono motivi di altro genere, questo è, secondo me, non sarà mai così, su questo piano qua, così proprio di una ricostruzione dei fatti, poi di quelle che i nostri colleghi francesi chiamano appunto l'histoire d'Avramansiel. Non credo che sarà mai possibile dare una risposta netta, anche perché, per esempio, leggevo ultimamente una testimonianza della signorina, credo, Iotti, comunque dell'onorevole Iotti, che proprio diceva su questo aspetto, in effetti, togli atti. Lui aveva tutta una strategia, però da questa intervista recente fatta dalla Iotti non si capisce poi bene. Noi possiamo ricostruire certi fatti, certo c'è il piano Marshall. Il piano Marshall è un elemento indubbiamente dirompente, anche perché, secondo la mia opinione, anzi qui tu potresti, proprio come studioso di politica estera, dire tu qualcosa, insomma, Anche perché il piano Marshall viene concepito non solo come piano di soccorso sulle politiche di sviluppo, ma viene realmente concepito come tentativo di organizzazione politico-economica di un'area, di un mercato internazionale molto ampio. Però questo concetto, la costituzione di un grosso mercato internazionale su basi democratiche, su basi precise, non è un concetto economico, appunto, è un concetto anche politico. E direi che Togliatti evidentemente reagiva a questo, però ci sono anche altre forze. Per esempio nella segreteria De Gasperi ci sta la FIOM CGL, no? Che fa dei manifesti terroristici, e andarli a leggere, stanno lì tutti quanti elencati, proprio manifesti terroristici. Dio non voglia si approva il piano Marshall, voi tutti andrete alla fame, sarete sfruttati, si arricchiranno in pochi. Non c'è immagine, veramente non c'è immagine terroristica che la FIOM CGL non evoca pur di bloccare il piano Marshall. C'erano quindi queste controspinte, ci stavano, ed era chiaro allora che la situazione si crea anche per ragioni economiche. Non credo però che siano solo ragioni economiche puramente intese, ma ripeto, è così difficile separare l'economia dalla politica in quel periodo che non lo so. Certo, la spiegazione però non va ritrovata proprio anche in un quadro più generale, insomma c'è anche una situazione internazionale che evolve in un certo modo. Alberti sagt, auf die Frage ihm gestellt worden sei, könne er keine risposta netta, keine einfache, wir würden in Deutschland wahrscheinlich sagen, chemisch reine Antwort geben. Denn die Dinge seien nicht so getrennt gewesen. Natürlich, es habe auch ökonomische, aber es habe auch politische Aspekte gegeben. Der Marshallplan, es sei nicht nur eine wirtschaftliche Konzeption gewesen, auch nicht nur der Gedanke, wir geben amerikanische Gelder unter der Bedingung, dass ein großer Markt entsteht, in dem also die Größe des Marktes nun das Wirtschaftswachstum befördern kann. Das sei ja eigentlich keine wirtschaftliche, sondern eine wirtschaftspolitische und politische Entscheidung. Im Übrigen betonte er, es habe für den Bruch mit den Kommunisten auch andere Probleme gegeben, nicht nur die internationale Politik, auch die Drohung, die Pression von Seiten, dass mit Terrormaßnahmen oder von Terroristengruppen, dass gegen die Annahme des Marshallplans aufgetreten wurde. Das heißt also, er sagt, ich kann es nicht beantworten. Er hatte zunächst auch noch gesagt, das hat die Zeitgeschichte noch nicht aufgearbeitet. Er bezweifelt aber, ob sich diese Frage je so präzise, so klar, wie sie gestellt war, beantworten ließ. Und jetzt hatte sich Herr Dr. Buchstab noch gemeldet. Ich habe noch eine Frage zur Agrarreform. Vom Potsdamer Abkommen, das ja die Zukunft Deutschlands entscheidend verändert hat, haben die Alliierten festgehalten, dass eine Bodenreform durchgeführt werden müsse, weil sie der Meinung waren, der Großgrundbesitz sei, verkürze mal jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit, verantwortlich für Nazitum und Krieg. Diese Bodenreform ist 1945 bereits in der sowjetischen Besatzungszone sofort durchgeführt worden, und zwar relativ rigoros. In den Westzonen haben sich die Alliierten Zeit gelassen, haben aber dann die deutschen Stellen beauftragt, diese Bodenreform durchzuführen. Die deutschen Stellen haben sich auch bemüht. Allerdings ist, soweit ich weiß, diese Bodenreform nur in Hessen etwas konkretisiert worden. In den anderen Ländern, in anderen späteren Ländern, war es so, dass die Großgrundbesitzer durch freiwillige Landabgaben diese Tendenz unterlaufen haben. Die Frage ist jetzt, ist eine ähnliche Einflussnahme für die Agrarreform auch in Italien von Seiten der Alliierten, der Amerikaner, che ci sia stata una pressione da parte degli alleati perché gli avvenisse qui una riforma agraria. In Germania abbiamo influsso perché nel trattato di Potsdam nell'estate del 45 uno dei punti fu l'obbligazione di una riforma agraria perché pensavano che dal Grundbesitz veniva il militarismo, il nazismo eccetera eccetera, e nella zona di occupazione sovietica nel 45 fu con l'espropriazione di tutti i fondi di Grundbesitz nelle zone americani, inglesi e francesi non fu molto, solo in Asia ma non fu molto. La sua domanda è se esiste o se si sa qualcosa sopra un eventuale influsso della politica alleata sul problema Mezzogiorno e gli dice che c'è riforma agraria. O non c'era questa discussione per la Germania? Per l'Italia? No. C'è un intervento semplicemente importante ed è il rapporto Hoffmann. Il rapporto Hoffmann, il country status sarebbe per l'Italia. Il rapporto Hoffmann che riguarda l'utilizzazione del fondo ERP rimprovera la politica economica italiana del tempo di non essere molto moderna e di non essere abbastanza dinamica nella spesa di questi fondi, e minacciano quindi di ridurre questa dotazione. Cioè, noi vi abbiamo dato non so quanti miliardi o milioni di dollari, voi non li state spendendo, vuol dire che non ne avete bisogno, ve li togliamo. Il rapporto Hoffmann, però il rapporto Hoffmann si inserisce non come intervento alleato, il rapporto Hoffmann è del 49 e si inserisce nel piano Marshall, quindi nella Economic Administration Corporation che organizza e gestisce questo programma. Influssi alleati in materia, che io sappia, non lo so, ma anche qui non so se i cultori... No. Poi c'è il quarto punto del piano Truman che riguarda questo aspetto, ma quello credo che faccia parte... No, non c'è. La riforma agraria è un mito, ma lo consentono gli amici democristiani. È rimasto un mito. È un mito, è un mito ideologico dei cattolici italiani. Insomma. È a Liberty Sachs. Gli interventi degli alleati sono solo sul problema istituzionale. Esatto. Herr Pastorelli sagt aus genauer Kenntnis der Verhältnisse der italienischen Außenpolitik dieser Jahre, ausschließlich der alliierte Einfluss bezieht sich ausschließlich auf gewisse Pressionen, die in Bezug auf die italienische Verfassung ausgeübt werden. Diese strukturellen Fragen sind nie Gegenstand alliierter Politik geworden, wohl als es um die Marshallplangelder ging, ist von Seiten des Marshallplans Kritik an der italienischen Wirtschaft geübt worden. Er bringt da einen Rapport Hoffmann, also einen Bericht Hoffmann, der das tut. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Allora, mi sembra sono quasi sei e mezzo. Ringraziamo l'oratore perché è stato quello più lungo. Ero tempestato di domande e di richieste e ero proprio la sua relazione. Allora, domani mattina noi cominciamo alle 9 precise.